Eccoci, grazie della ragazzi innanzitutto, fa sempre piacere. Ecco, ogni tanto bevo, abbiate pazienza, ma mi capitava spesso oggi. Eccoci. Quello che vedete alle mie spalle è il grafico che illustra il consumo del formaggio negli Stati Uniti d'America. Ve lo sarete chiesti un sacco di volte, chissà quanto formaggio mangiano gli americani? Questa è la risposta. Col passare degli anni gli americani mangiano sempre più formaggio. Vabbè, in blu il consumo del formaggio. Adesso in arancione compare un altro grafico, molto simile a questo. I matematici lo dicono essere correlato fortemente con questo. In blu il consumo del formaggio negli Stati Uniti d'America, in arancione il numero delle persone che in America ogni anno muoiono strangolate nelle lenzuola del letto. In blu il consumo del formaggio, in arancione il numero delle persone che muoiono strangolate nelle lenzuola del letto. L'indice di correlazione tra questi due dati è 95%. Il dato è drammatico, la gente insomma muore strangolata nelle lenzuola del letto, esiste, e quello è il numero. Ora, quello che è interessante di questa coppia di grafici è che i due grafici sono quasi sovrapponibili, sono molto simili. Sono veri, i dati. Tendenzialmente quello che dico stasera è più o meno tutto vero, tranne refusi o cose del genere. E allora come mai sono così simili? Noi esseri umani nasciamo per farci domande e cercare legami tra cose. Allora ci chiediamo, se uno mangia il formaggio, poi non lo digerisce bene, torna a casa, va a dormire, si rotola nel letto e muove strangolato nella lenzuola del letto, qual è il legame? Cioè, come mai succede questa cosa qua? Prima di darvi una risposta vi faccio vedere un'altra coppia di grafici. In blu, questa volta sempre in America, quante sono le persone che ogni anno muoiono affogate in piscina. Questo è il grafico. Oggi parleremo un sacco di gente che muore, ve lo dico già adesso. Tanto già siamo stati criticati prima di arrivare, quindi, almeno insomma. Ok, un sacco di gente che muore. Vedete che per fortuna col passare degli anni in America muoiono sempre meno persone affogate in piscina, dal 99 al 2003, però purtroppo poi c'è un aumento. Fino ad avere un picco di morti nel 2007, poi di nuovo diminuisce, per fortuna. In blu, il numero delle persone che in America muoiono affogate in piscina. In arancione, un altro grafico. Negli stessi anni, quante sono, anno per anno, il numero dei film in cui appare Nicolas Cage. Quando Nicolas Cage non fa film, ne fa molti pochi, meno gente muove affogata in piscina. Quando ne fa tanti, un sacco di gente muove affogata in piscina. L'anno dopo si riposa e infatti meno gente muove affogata in piscina. Indice di correlazione 67%, molto alto. Cosa c'entra? Uno va al cinema, vede il film di Nicolas Cage, gli fa schifo, torna a casa, si suicida affogandosi in piscina. Qual è il legame? Qual è il legame tra il formaggio e il numero di persone che muoiono strangolate nelle lenzuola del letto? Ora, è normale farci queste domande, no? È normale che ciascuno di voi si stia facendo una serie di domande. Tipo questo qua, che cavolo ci fa con gli occhiali da sole, anche se siamo al buio, insomma, questo al chiuso, insomma. Sono domande istintive. Nessuno di voi l'ha fatta a voce alta, ma tutti voi l'avete pensato, ok? E tutti voi vi siete chiesti cosa c'entra questa roba qua, a parte se stiamo parlando di gioco d'azzardo, questo mi parla di formaggio. Sono domande istintive, nella nostra testa capitano, e noi studiamo questa roba qua, cioè studiamo come funziona il nostro cervello, studiamo come funziona la matematica, come le due cose sono correlate, come, insomma, come succedono una serie di cose. Ma prima di parlarvi di noi e così di cosa facciamo, vi dico perché abbiamo introdotto questi paio di coppie di grafici. Perché a noi interessava introdurre questo grafico che vediamo adesso, di nuovo coppia di grafici. In blu la spesa del gioco d'azzardo legale in Italia, cioè quanti soldi in Italia noi italiani spendiamo in Gratta e Vinci, slot machine, Superenalotto, Lotto, tutto quello che avete in mente. Ok? Il grafico è questo qui. Eccolo qua. Ora, visto così non fa neanche troppa impressione, ma questi qua sono nel 2005 29, occhio all'unità di misura, miliardi di euro spesi in gioco d'azzardo. I giornalisti spesso ci intervistano e poi alla fine viene fuori 29 milioni di euro. No, sono miliardi di euro, solo che poi uno non ci crede. Spesi nel 2005 in Italia, ma l'avete vi sentito i dati, no, che abbiamo riportato, che ha riportato prima l'assessore, insomma, sulla spesa qua, ok? Pensate in tutta Italia. Ok, i 29 miliardi diventano 35, 42. Noi abbiamo cominciato a occuparci di gioco d'azzardo in questi anni E mi ricordo che ci dicevano, no, beh, siete arrivati troppo tardi, tanto insomma non si spenderanno mai più di 50 miliardi di euro all'anno. Insomma, la faccio breve, siamo arrivati nel 2016 a 96 miliardi, 2017 101 miliardi di euro, dati 2018 ancora non ci sono, ci impiegano un po' per questi dati, ok? Per la cronaca sono noti in tempo reale, insomma, però poi ci impiegano, non so, 6, 8, 10 mesi a comunicarli, ma vabbè, sono dettagli. Questi sono i miliardi che noi spendiamo in gioco d'azzardo. Ora, solo per darvi un'idea, insomma, il reddito di cittadinanza sono 15 miliardi, più o meno. Okay? Adesso, insomma, si sta facendo, magari ci sarà la crisi di governo, perché non si riescono a trovare 20 miliardi, 25 miliardi. Questi sono 101, okay? Solo per darvi un'idea di quanti sono questi soldi qua. È un fenomeno in espansione, fortissimo. Adesso si sta stabilizzando, se volete. Vedete, in questi anni non è cambiato tantissimo, ma intorno a delle cifre spaventose. Il gioco d'azzardo c'è sempre stato in Italia, 1861 Unità d'Italia, 1863, due anni dopo, il lotto diventa gioco di Stato, quindi da subito. Okay? Non ce n'è mai stato così tanto. Questo no, questo boom di gioco d'azzardo è tipico degli ultimi 15 anni ed è tipico italiano, ok? Per vari motivi, ne dico solo uno, insomma si potrebbe stare a parlare per ore di questa roba. In Italia abbiamo la Lottomatica e la Sisal, giusto per non fare nomi, insomma, e non essere denunciati da nessuno. Queste due società sono piccoline, sono la Lottomatica la numero uno in Italia, la Sisal la numero due in Italia per volumi di gioco d'azzardo. Ma la Sisal è anche la numero sei al mondo per volumi di gioco d'azzardo, ok? Al mondo. E la Lottomatica invece è la numero uno al mondo. Quindi delle prime 10 al mondo italiane, 2 sono italiane. 10 al mondo sul gioco d'azzardo, 2 sono italiane. Per darvi un'idea, insomma, l'Ottomatica, attraverso la IGT, IGTEC, eccetera, eccetera, insomma, stampa i gratta e vinci in tutto il mondo, insomma, in America, in Francia, in Spagna. Andate lì e quelli sono stampati da noi, okay? Ideati, organizzati, insomma. E quindi, insomma, è naturale che se abbiamo due colossi mondiali in Italia, insomma, poi il volume di gioco d'azzardo aumenta. Ok. Qual è il problema? Tutto questo è legale. Infatti molto spesso ci dicono, vabbè, che problema c'è? Questo è legale, insomma, è un settore come tanti altri. Insomma, poi ovviamente esiste il gioco d'azzardo illegale, ma io oggi non ne parlerò, perché ovviamente è un problema gigantesco, ma a me interessa concentrarmi su quello legale. Perché non passi l'idea che il legale è cattivo e il legale è buono. Il legale è cattivissimo, il legale non è proprio così buono, ecco, mettiamola così. Bene, c'è un piccolo problema, che è stato già insomma accennato prima, che è un problema sociale gigantesco, del numero delle persone che si ammalano di gioco d'azzardo. Io non vi parlerò di questo problema, che è fondamentale, ma non è il mio lavoro. Vi dico solo quanti sono i malati di gioco d'azzardo, mi piacerebbe dire in Italia, ma non lo sa nessuno. E allora vi dico quanti sono i malati di gioco d'azzardo in Piemonte, perché sono di Torino, come si sente dall'accento, e abbiamo tutti i dati piemontesi, okay? Perché conosciamo tutte le persone che in Piemonte si occupano di curare i malati di gioco d'azzardo e quindi abbiamo chiesto a loro tutti i dati, che sembra una banalità, ma non è così banale averlo. I dati sono questi, in arancione. Erano circa 160 i malati in Piemonte di gioco d'azzardo nel 2005, sono arrivati a essere 1500 nel 2016, ok? Nell'arco di pochi anni. E come prima, quelle di prima erano coppie di grafici a caso, no? In cui non c'era nessun legame di causa ed effetto. Ok? Si chiamano correlazioni spurie. Questi due grafici sono molto simili, tant'è che l'indice di correlazione è altissimo, 97%, ma a differenza delle coppie di grafici prima, qua c'è un legame causa-effetto fondamentale. Più aumenta la diffusione di gioco d'azzardo, più aumentano il numero di slot, più aumenta la possibilità di giocare al lotto. Pensate al lotto. Anni fa, vi ricordate, c'era un'estrazione a settimana, il sabato. Poi sono passati da 1 a 2, mercoledì e sabato. Poi da 2 a 3, martedì, giovedì e sabato. Adesso c'è il 10 lotto, in cui l'estrazione è ogni 5 minuti. Se non volete aspettare 5 minuti, c'è l'estrazione del lotto istantaneo. Ok? Dite dei numeri, lo consegnate al tabaccaio e istantaneamente fa l'estrazione solo per voi. Ok? Quindi si velocizza tutto, in modo tale da dare più occasioni. Bene, più aumentano le occasioni di gioco, più aumenta la spesa di gioco d'azzardo, più aumentano i malati. Fine. Quindi è evidente che nei prossimi anni ci sarà un numero di malati sconvolgente. Se anche da oggi a domani basta, dovessimo smettere di giocare d'azzardo tutti, i malati continuerebbero a esserci per i prossimi, boh, chi lo sa, 10, 15, 20, 30 anni. Se continuiamo così, insomma, andrà molto peggio. Adesso che vi ho depresso, okay, con questi che sono dati, insomma, tristemente dati reali, vi dico chi sono e cosa ci facciamo noi qua quest'oggi. Io mi chiamo Paolo, sono un matematico, sono questo tizio qua nella foto, e qua in questo gruppo di persone c'è un altro matematico, Olmo, che doveva essere presente qua quest'oggi, ma ha avuto problemi di salute stamattina alle 11, insomma, e quindi non è riuscito a venire. E gli altri componenti della nostra società sono persone che hanno fatto studi molto diversi invece rispetto a me e Olmo. In realtà c'è un fisico, quindi più o meno, ok? Ma c'è anche un medico, un biologo, un chimico, un docente universitario, c'è un filosofo, c'è un videomaker, c'è un addetto stampa di un noto politico, insomma ci sono persone che hanno fatto percorsi di studio molto diversi l'uno dall'altro, e tutti insieme ragioniamo sul come prendiamo decisioni, quali meccanismi adottiamo, eccetera eccetera. Il gioco d'azzardo è un argomento estremamente complesso e noi abbiamo deciso di affrontarlo tutti insieme con una società che abbiamo fondato qualche anno fa, si chiama Taxi 1729. Ci hanno descritto così, a me piace molto, quindi ve lo riporto: pensano da scienziati, comunicano da creativi e soprattutto si divertono da matti. Questa è il nostro, insomma, la nostra descrizione, secondo me funziona abbastanza. Ci divertiamo, infatti a me fa un po' sorridere ogni tanto, prima stavamo mangiando, ah, tu che sei un attore. No, io sono un matematico, insomma si vede, non so recitare, non sto recitando, vi sto spiegando un po' di matematica in un modo un po' diverso dal solito, ecco. Mi piacerebbe essere un attore, ma non lo sono. Perché Taxi 1729 e cosa abbiamo fatto? Nel 2009, la faccio breve, ci sarebbe piaciuto spiegare il calcolo della probabilità in modo un po' diverso dal solito, no? Cioè non davanti a una lavagna, ma abbiamo pensato, pensa che figo, riusciva a spiegare il calcolo delle probabilità ai ragazzi di fronte a una boulette. Noi non avevamo il becco di un quattrino, le boulette esistono in quattro posti d'Italia, nei quattro casinò e basta. Non si possono comprare su Amazon, eBay, eccetera. Insomma, dicevo, la faccio breve, ci siamo comprati una volette. Con il nostro logo, insomma, messo proprio ricamato lì sopra. Poi, insomma, ci siamo presi bene, ci siamo anche comprati un tavolo da blackjack, ci siamo comprati un tavolo da poker, abbiamo chiesto in prestito delle slot machine, abbiamo costruito noi un casinò. Il quinto casinò d'Italia, itinerante in tutta Italia, lo organizziamo, insomma, lo allestiamo, è tutto identico, un vero e proprio casinò. Abbiamo le chiavi delle slot machine, possiamo aprirle, vedere come funzionano. Uscirà un servizio a presa di vetta a settembre in cui facciamo vedere, insomma, per una delle prime volte, insomma, come è fatta dentro una slot machine, come si può programmare, insomma, come si può fare. C'è un sacco di gente che spende miliardi di euro in slot machine, 50 miliardi di euro vengono spesi ogni anno nelle slot, nessuno sa come sono fatte dentro, ok? Bene, insomma, facciamo vedere come funziona, spieghiamo il regolamento, spieghiamo i meccanismi, ovviamente, tristemente per noi non ci facciamo pagare, ma tutto il resto è identico a un vero e proprio casinò, in cui il nostro obiettivo è quello di spiegare alle persone come funziona il gioco d'azzardo. Fine. Molti ci dicono, voi fate controinformazione sul gioco d'azzardo. No, noi facciamo informazione. Però in un mondo dominato dalla pubblicità, se uno fa informazione sembra che faccia chissà che cosa. Ok, il casinò è un po' incasinato da portare in giro, insomma è molto bello, ma sono 250 metri quadrati di allestimento. E allora nel 2009 abbiamo cominciato a fare delle conferenze, come quella di questa sera. Abbiamo cominciato nel 2009 la prima conferenza a Torino. Io poi mi sono preso bene, mi sono licenziato, insomma avevo il mio bel contrattino a tempo indeterminato, lavoravo da 10 anni. Mi sono licenziato, ho detto vabbè dai, facciamo sta roba a tempo pieno, e infatti nel 2010 si sono visti i risultati. Perché nel 2009 una conferenza all'anno, nel 2010 abbiamo raddoppiato il numero di conferenze annue. Da una a due, vabbè, però. Però insomma quelle cose sono andate meglio, insomma nel 2018 abbiamo fatto 168 conferenze in un anno, da Bressanone fino a Siracusa, insomma, adesso andiamo anche un po' all'estero, insomma. Abbiamo cominciato a fare questa roba qua e insomma e giriamo abbastanza. Siamo stati anche in TV, siamo andati dalla Litizzetto, Ramellini, Maurizio Costanzo, Pio Medusa, Nadia Toffa, Le Iene. Abbiamo scritto un bellissimo libro, Fate il nostro gioco, come il titolo della serata di oggi. Io guadagno un sacco di soldi dalla vendita del libro e questo è il motivo per cui non ne ho portata neanche una copia, ok? Però insomma, mi permetto di dire che è un bel libro perché non l'ho scritto io. Okay, io sono uno dei due autori, mi chiamo Paolo, sono questo qua, però visto che io non so scrivere, insomma sono un matematico, non ho mai avuto una sufficienza di tema in vita mia, ci chiedevano di fare un libro, come faccio a scrivere un libro? E allora abbiamo chiesto al nostro amico, che ha scritto per noi, un ghostwriter, il cui nome è così sconosciuto che l'abbiamo messo in prima pagina, e abbiamo detto, bene, tu sei la persona giusta perché sai scrivere molto bene e non sai niente di matematica. Quindi lui cosa faceva? Veniva da noi in ufficio tutti i giorni, noi gli spiegavamo le cose, lui tornava a casa, ci ragionava, le riscriveva molto meglio di come saremmo riusciti noi a scriverle. Insomma, lo trovate in libreria, su Amazon, dove volete. Io guadagno la bellezza di 17 centesimi ogni copia venduta, quindi capite che, insomma, mi fa piacere pubblicizzarlo per diventare ricco e perché ci credo molto in questo progetto, insomma. Fine dello spot pubblicitario, insomma, perché ci chiamiamo Taxi 1729? Beh, forse non l'avete mai sentito, ma il Taxi 1729 è molto famoso. Non so, qualcuno di voi l'ha già sentito nominare sto numero? Strano, no? Ok, benissimo. Molto famoso, così famoso che molti registi lo inseriscono all'interno dei loro film. Ma nessuno conosce la storia, quindi non riconosce queste citazioni. Addirittura c'è un produttore di cartoni animati che va matto per il Taxi 1729 ed è l'autore, tra l'altro, di questo cartone animato qua. Si chiama Futurama, okay, l'ideatore è lo stesso dei Simpson, Matt Groening. Qualcuno di voi ha visto Futurama? Ok. Questo personaggio qua in mezzo, come si chiama? Così io bevo. Bender, giusto? No? Vi do questa notizia drammatica. No? Se si chiamasse Bender, quando riceve, puntata 17 se non sbaglio, una lettera di auguri da parte della mamma che gli fa gli auguri di Buon Natale? Ovviamente è in inglese, no? Il cartone viene tradotto in italiano, ma quando ricevi una lettera, insomma, è scritta in inglese, no? La scritta. Se si chiamasse Bender, la lettera di auguri di Buon Natale a Bender dovrebbe essere Buon Natale Bender, giusto? O meglio, in inglese, Merry Christmas Bender. Invece la lettera che riceve Bender è questa. Merry Christmas, figlio numero 1729. Bender, invece, in realtà, è il nome di Robot 1729, che è il nome vero di quel personaggio lì. Poi, in italiano, e non solo in italiano, è stato adottato anche il nome di Bender. Però il nome vero è questo. Uno vede questa roba qua e dice, boh, hanno buttato lì un numero a caso. E invece no, una citazione di quel Taxi 1729, una storia bellissima, a noi è piaciuta tantissimo, la nostra società prende il nome da quella roba lì. Abbiamo detto, prima o poi, 2009, 2010, prima o poi faranno un film su questa storia. E infatti hanno fatto un film. Nel 2016 è uscito L'uomo che vide l'infinito, e in questo film a un certo punto c'è un attore che interpreta i panni di un matematico che prende un taxi per andare a trovare un altro matematico e il taxi che prende è per l'appunto il taxi numero 1729. Che succede su quel taxi? Non ve lo dico, se siete curiosi, taxi1729.it, Facebook, Instagram, Twitter, tutto quello che volete e lo scoprite. Morale della favola, comunque, c'è la gente che una volta o due settimane passa dall'ufficio, ci telefona o ci scrive per prenotare i taxi in giro per Torino, insomma, pensando che facciamo questo di lavoro, ok? Invece no, insomma, non è quello il nostro lavoro. Cosa facciamo oggi? Oggi vi parlerò di gioco d'azzardo e lo faccio giocando. È una roba un po' strana, infatti appunto ogni tanto ci criticano, no? Di solito ci criticano prima di vedere, insomma, perché in effetti sembra un po' curioso, dici fai una roba di prevenzione sul gioco d'azzardo patologico e fai giocare la gente? Sì. Perché nessuno sa come funziona il gioco, allora noi vogliamo spiegarlo. Una volta che dopo questa sera voi avete più o meno capito come funziona, deciderete di fare quello che volete. Ok? Se uno gioca d'azzardo di solito è perché subisce un sacco di pubblicità, ma non sa bene il regolamento. I regolamenti sono lunghi, noiosi, noi insomma siamo appassionati di questa roba, ce li leggiamo, cerchiamo di capirle e le trasmettiamo. Parliamo in particolare di questo gioco qua, questa sera. Non è il gioco preferito dagli italiani. Il gioco preferito sono le slot machine, come volume di gioco, come soldi spesi. Ve l'ho detto prima, 50 miliardi di euro all'anno. Ma il gioco più diffuso è il Gratta e Vinci, ok? Perché vi parlo di questo gioco? Perché lo vedrete, è un gioco bellissimo. Nasce il 29 settembre 2009. 2009, se vi ricordate, è l'anno del terremoto in Abruzzo, terremoto all'Aquila. Infatti pochi, cos'è, un paio di mesi fa, cos'è, ad aprile, insomma. Sì, sono rimasto un po' indietro, insomma, abbiamo festeggiato, tra virgolette, i 10 anni, insomma, non c'è niente da festeggiare, ma insomma abbiamo celebrato, diciamo, la ricorrenza. Perché nasce il 29 settembre 2009? Non è un caso che nasca nel 2009 perché tutto il ricavato del Win for Life finisce per la ricostruzione dell'Abruzzo. Anzi, guardiamolo al contrario, tutti i soldi che finiscono in Abruzzo per la ricostruzione dell'Abruzzo arrivano tutti dal gioco d'azzardo. Quindi nel 2009 il governo dell'epoca, dopo il terremoto, ha detto: cosa facciamo a partire su tutti questi soldi? Facciamo delle nuove tasse? E no, impopolare, poi non ci votano più, ok? Cosa facciamo? Introduciamo nuovi giochi d'azzardo. Così la gente che gioca è felice, no? Perché può giocare, la gente che non gioca è felice, perché tanto, insomma, i soldi li paga qualcun altro. E allora nel 2009 sono state introdotte le slot machine, quelle che adesso stanno cercando, no? Di togliere, di limitare, sono state introdotte apposta, quelle, le nuove slot machine, quelle delle sale VLT. È stato inventato il Wheel of Life, è stato inventato il 10-lotto, sono stati inventati dei nuovi gratta e vinci, eccetera, eccetera, proprio per costruire tutta questa roba qua. Ce n'è anche uno geniale che è stato tolto da Monti, quindi prendetevela con lui. Si chiamava la lotteria della spesa, già stato approvato. Insomma, se fosse entrato in vigore, sarebbe stato così. Noi siamo andati a fare la spesa ovunque, supermercato, mercato, ovunque, negozietto, faccio la spesa, pago, non so, 11,50 euro, do la mia bella banconota da 20 euro, e poi mi chiedono: il resto lo vuole o se lo gioca? Ok, questo ovunque, sempre, ve lo immaginate? Era già approvato, ok? Poi Monti ha detto: no, dai, non esageriamo, ok? E quindi non è stato realizzato, però c'era. E tra questo c'era il Wheel of Life. Questa è la prima schedina, bellissimo, un sacco di gente va a giocare per due motivi. Primo motivo, 4.000 euro al mese per 20 anni, quello che poi è stato chiamato il vitalizio, okay? È stato il primo gioco che mette in palio, scusate, non 1 milione di euro, ma 4.000 euro, che non sono tantissimi, però 4.000 euro tutti i mesi per 20 anni, quindi fa un sacco di soldi. La gente è più contenta di vincere 4.000 euro, un importo che è suggestivo. Se vinco 1 milione di euro è un po' complicato, cosa me ne fa? Cioè, sono felicissimo, però la mia vita cambia di botto. Invece con 4.000 euro al mese, insomma, so gestirmeli. E poi tutta la gente va a giocare per l'altro motivo, che è quello che abbiamo citato prima, il cuovicino per l'Abruzzo. Il gioco cambia tanto in questi ultimi 10 anni, questa è l'ultima versione del gioco. Cos'è cambiato? Vinci 3.000 euro al mese per 20 anni, c'è ancora il cuovicino, insomma, dal punto di vista grafico è cambiato tutto, perché la schedina è orizzontale, non è verticale, cambiano i colori, cambiano un sacco di cose. Punto di vista matematico, nulla, sempre uguale. Come funziona il gioco? Ve lo dico io, perché tra poco giochiamo. Si può giocare tutti i giorni, feriali, festivi, Natale, Pasqua, Capodanno, quando volete, dalle 8 del mattino alle 22. 8, 9, 10, 11, ci sono un'estrazione ogni ora. Il gioco funziona così, qua ci sono i numeri dall'1 al 20. Ogni ora ne vengono estratti 10. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna cercare di indovinare i 10 numeri che vengono estratti. Ora, qua io casualmente ho delle carte numerate dall'1 al 20. Voi casualmente avete una schedina simile a quella alle mie spalle. Casualmente avete anche una penna. Dovreste far così. Prendere la schedina, prendere la penna e segnare sulla schedina 10 numeri. Come? Come volete voi, scegliete il numero che volete voi, dovete cercare di indovinare i 10 numeri che tra poco estraggo io qua sopra. Ok? Pronti? Via, buona scelta dei 10 numeri, fatelo tutti, tutte le persone presenti. Se non avete la schedina o non avete la penna, alzate la mano che veniamo a portarvela. Uso questo plurale. Ok, ce l'avete tutti, no? Vi è stato consegnato all'ingresso. Ok, segnate i numeri. Non fa caldo però stasera. Ok, c'è qualcuno che non ce l'ha, giustamente. Dieci numeri, sceglieteli come volete, è fondamentale che siano 10. Ora, l'ingresso era gratuito, no, questa sera? L'ingresso sì, nessuno vi ha chiesto soldi, però quando uno gioca d'azzardo, insomma, il principio fondamentale del gioco d'azzardo è che uno tiri fuori dei soldi, perché l'obiettivo è di vincere dei soldi. Quindi per rendere, insomma, più partecipativa la cosa, la schedina costa 1 euro o 2, ok? Oggi giochiamo la versione da 2 euro, quindi ciascuno di voi a questo punto dovrebbe tirare fuori il portafoglio e darmi 2 euro. Eccezionalmente però, già pensate, ecco la fregatura, eccezionalmente però, grazie agli accordi con il vostro sindaco, che non sa di questa cosa, ma lo scopro in questo istante. Voi non mi pagate 2 euro, ma perché ci vengono gentilmente forniti da lui, in prima persona, cioè non come sindaco, proprio come persona fisica. Ok, quindi immaginate che voi mi abbiate dato, ciascuno di voi, 2 euro, ok? Poi vi ringrazierete il sindaco personalmente di questa cosa. Ok, va bene? Sindaco, se non è tanto felice di questa cosa, ma... Ok, va bene, ve lo immaginate, quindi avete sborsato 2 euro, questo è fondamentale. Quindi oggi, solo per questa sera, immaginate anche, nel caso in cui vincerete, immaginate di ricevere dei soldi, ok? Perché io non ve li darò, ok? Non ho da darvi 3.000 euro al mese se vincete, però dovete immaginare di giocare davvero. Tutto il resto sarà identico all'originale, ok? Bene, avete segnato 10 numeri, adesso io pesco 10 numeri. Quello che vi può capitare è una delle cose che adesso compaiono alle mie spalle. L'avete segnato tutti, giusto? I 10 numeri? Posso scendere? Faccio paura, sì. Matematico che va in giro per... fa paura di sicuro. Tutti voi avete giocato 10 numeri, giusto? Anche tu? Sì. Ti chiami? Lorenzo. Lorenzo si sta già pentendo di essere venuto questa sera. Ok, Lorenzo, hai segnato 10 numeri, giusto? Io adesso pescherò 10 numeri. Ti faccio solo una domanda. Facile. Prof di mate che dice domanda facile. Paura. Ok, è possibile che io adesso estragga esattamente i tuoi 10 numeri, sì o no? È possibile, sì o no? Sì. Tutti d'accordo? Sì? Sì? No? No. Sì. Sì, la risposta esatta è sì. Perché sì? Facciamo così, se fosse no, se non fosse possibile, beh, è inutile giocare. No? Cioè, uno gioca d'azzardo proprio perché è possibile. Quindi Lorenzo, giusto? Okay, memoria da pesce mosso. Ok, Lorenzo, è possibile che escano i tuoi 10 numeri? Sì. Usciranno? No. Ok? Se qualcuno vuole uscire prima, perché... boh, questo è il riassunto. Giocate, è possibile vincere? Sì, vinci? No. Basta. Ok? Ora, basta. Ora, potrei anche andarmene, tanto insomma abbiamo finito tutto. Però adesso poi ve lo dimostro questo, ok? Quindi io mi sto rischiando una figuraccia di quelle clamorose, no? Voi siete, vi ho contato prima, più di 170 persone, tra l'altro bravi, insomma siete un sacco di persone, ok? Poi il teatro è gigantesco, quindi sembra sia semivuoti, ma vi assicuro, vi ho contato, siete un sacco di persone, bravi. E io sto dicendo di fronte a 170 persone, Lorenzo, giocati dei numeri, non so quali numeri tu hai giocato, giusto? Non ci siamo mai visti prima, non ci siamo messi d'accordo, io non so soprattutto ancora che numeri verranno estratti, e io dico, non verranno estratti i suoi 10 numeri. Visto che è possibile che questo accada, pensate se succede, che figuraccia mi faccio. Giusto? Perché non è impossibile, tutti d'accordo? No? È possibile, sì, quindi non è impossibile. Ok, va bene, fine, benissimo. Allora adesso cosa facciamo? Adesso peschiamo i 10 numeri, ok? E vediamo se sono i 10 numeri di Lorenzo. Se li dovessi indovinare tutti quanti, mi faccio una figura clamorosa, tu vinceresti un sacco di soldi, ok? Oggi niente, l'abbiamo detto, però insomma, in generale un sacco di soldi, ok? È molto difficile indovinarli tutti i 10, ok? Non è impossibile, ma è molto difficile. Magari li indovini tutti e ne sbagli uno. È possibile, no? Ok, in quel caso fai 9. Qualcuno di voi gioca alle scommesse sportive? Nessuno. Mamma mia. Ma davvero? E cos'è? L'unico posto al mondo. Lorenzo, non hai mai giocato una schedina? Ah, già sapevo io. Ok. Stai parlando, ok. Vabbè, come quando... chi ha votato? Nessuno. Poi partito... Vabbè. Ok, non facciamo riferimenti politici. Ok, benissimo, una schedina giocata. Allora, se tu giochi una schedina, supponiamo ci siano 10 partite, no? Devi indovinarle tutte e 10. Se sei bravissimo, le indovini non tutte e 10, ma 9 e ne sbagli una. Quanti soldi vinci in quel caso? Beh, dipende. Se tu ti sei giocato una combinazione, un sistema con 10 partite, ne becchi 9 e una la sbagli. Quanto vinci? 0. Perché devi indovinarle proprio tutte e 10. Ok? Poi si possono fare cose più complicate, però insomma, diciamo il principio base è questo. Ok? Qua se fai 9, cioè se ne indovini tutte tranne uno, vinci un sacco di soldi. Ok? Non 0, un sacco di soldi. Se invece fai 8, vinci. Se invece fai 7, vinci. Se invece indovini pochi numeri, tipo 3 numeri, vinci. Se ne indovini solo 2, vinci. Se ne indovini uno solo, vabbè, uno, quanto ci vuole? No? Se ne indovini uno, vinci. Se invece non ne becchi neanche uno, vinci. Le uniche tre cose che non devi fare, lo menzo, è 4, 5, 6. Se fai 4, 5, 6 perdi, ok? In tutti gli altri casi vinci. Chiaro per tutti? Schedina costa 2 euro, riassumiamo. Tra qualche minuto voi l'avete indovinato tutti e 10, oppure 9, 8, 7, 6, eccetera. In tutti i casi verdi, 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1, 0, vincete dei soldi. Se fate 4, 5, 6, perdete. Fine. 8 casi vincenti, 3 casi perdenti, giocate 2 euro, potete vincere 3.000 euro al mese per 20 anni. Ok? Non uscite in questo istante, altrimenti sembra di fare pubblicità al gioco. Ok? Ma questo è il regolamento ufficiale del gioco del Wings of Life. Adesso avete imparato a giocare. Ok? Chiaro per tutti il regolamento? Ok, allora vediamo come va. Cosa facciamo? Io adesso estraggo i numeri, anzi li estrarrete voi, così siete sicuri che non c'è nessuna fregatura. Scusate, cosa dovete fare? Man mano che io li estraggo dovete contare se l'avete indovinato o no. Ok? Tenerne il conto. E poi alla fine mi dite quanti ne avete indovinati. Ok? Lo farete con le dita delle mani, ok? In modo tale che man mano che estraggo i numeri voi li segnate e io giro tra di voi e vedo qual è il vostro punteggio. Ok? Quindi se avete il primo numero fate segno 1, 2, 3, ok? Così via. Ok? Così abbiamo anche svelato il motivo del, insomma, della presenza di 10 dita nell'essere umano. Ok, benissimo, pronti? Io, qual è la mia previsione, ce lo dico prima, dico Lorenzo non indovina tutti e 10, ok? Vediamo. Magari vince perché fa qualche altro, però non li becca tutti e 10. Vai Lorenzo. Primo numero estratto, è il numero 8. Ok, quindi chi ha l'8, alzi la mano, molto bene, bravissimi. Chi non ce l'ha, tranquilli, tanto insomma siete sulla strada per lo 0. Ottimo. Ok, prossimo numero estratto. È il numero 10. Disperato, ok. Pensa avessimo giocato soldi veri. Ok, prossimo numero estratto. 7. Prossimo numero. 6. Accidenti, stiamo estraendo dei numeri molto particolari. 1. Prossimo numero. 2. Mi sa che mi va malissimo stasera, poi vi dico il perché. Prossimo numero. 11. Ok, non abbiamo finito, sto solo facendo il conto. Ok, allora non abbiamo ancora finito, sono usciti dei numeri un po' particolari, dopo li commentiamo, ma voglio sapere un po' da voi come sta andando. Okay. Allora, c'è qualcuno tra di voi che per caso li ha indovinati tutti fino ad adesso? C'è qualcuno che li ha beccati tutti fino adesso? Alzi la mano o lo dica a voce alta. No. C'è qualcuno tra di voi che non ha indovinato nemmeno uno? No. Quindi tutti ne avete indovinato almeno uno, ma nessuno li ha indovinati tutti, giusto? Ok, benissimo. Non abbiamo ancora finito, ve l'ho detto, ok? Ma questo è il momento clou, perché mancano ancora 3 numeri. Ok. Ma tutti voi potete ancora vincere. Perché, ad esempio, assessore, posso chiedere quanto ha fino adesso? 2. Bene. Se non indovina i prossimi numeri, finisce a 2 e vince. Se ne indovina uno solo, finisce a 3 e vince. Certo, se ne indovina 2 o 3, no, perderà. Però, insomma, in questo istante può ancora vincere. Questo è quello che mi interessa. Siamo alla fine e lei può ancora vincere. Quanto ha fatto fino adesso? 3. Bene, stesso ragionamento, insomma, simile. Se non indovina nessuno dei prossimi, finisce a 3 e ha vinto. C'è qualcuno tra di voi che ha 4, tipo a 5? Ok, perfetto. Chi ha 4 a 5, ottimo, basta che chi ha 4 deve indovinarli tutti e 3, finisce a 7. Chi ha 5, basta che ne indovini 2. Ok, se qualcuno ne ha 6, basta che ne indovini 1. E così via. Chi ha 1, insomma, basta che non indovini tutti e 3. Insomma, quello che mi interessa è che in questo istante tutti voi potete ancora vincere. Siamo alla fine. È come se fossimo al 90° di una partita di calcio in cui ancora tutti possono vincere, ok? Insomma, siamo sullo 0-0, ok? Bene, allora gli ultimi numeri sono i più importanti, vediamo come va a finire, insomma. prossimo numero estratto è il numero 9. Prossimo numero estratto è il numero 19. E prossimo, nonché ultimo numero estratto, che responsabilità, è il numero 3. Ok. Bene, bene, bene. Abbiamo finito la nostra estrazione. Sembrava la tombola. Ora ripetiamo i numeri estratti. Sono stati estratti i seguenti numeri. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19. Ok, avete visto perché dicevo prima sono usciti dei numeri un po' strani, no? 6, 7, 8, 9, 10, 11, insomma una sequenza un po' particolare, 1, 2, 3. Ok, va bene, questi 10 numeri estratti. Vediamo un po', prima figuraccia della serata, Lorenzo. Stava parlando, si è spaventato. Ok, Lorenzo, li hai indovinati tutti i 10, sì o no? No. Ok, bene. Ok, l'avevo detto prima, giocati i numeri che vuoi, tanto non vinci. O meglio, tanto non li indovini tutti i 10. Giusto? L'avevo detto prima. E questo non è solo Lorenzo, poveraccio, che ti ho sorpreso come. Nessuno di voi li ha indovinati tutti i 10. Giusto? Ok, siete 170 persone, ciascuno di voi ha scelto 10 numeri a caso, nessuno li ha indovinati. E io questo l'avevo detto prima che giocaste, giusto? Non dopo. Dopo è facile. Ok, bene, la prima previsione mi è riuscita. Meno male, insomma. Non era impossibile, però non è successo. Ok, bene. Però ciascuno di voi ha fatto un punteggio che ha nella sua testa, non ditemelo. Perché non vi ho ancora detto quanti soldi si vincono. Vi ho detto che si vince fino a 3.000 euro al mese per 20 anni, ma non vi ho detto esattamente quanti. Allora adesso è il momento in cui ve lo dico, ok? Però prima c'è sempre qualcuno in queste occasioni che fa 4, 5, 6 e perde. Succede. Saranno poche persone, ma ci sono. E allora vi chiederei di far così, per cortesia. Vi chiederei di alzarvi in piedi, e lo so che è stancante, però almeno uno si sganchisce anche un po' le gambe, alzarvi in piedi se avete perso facendo 4, 5, 6. Prego. Ok. Ora, o a schio siamo un po' sfigati, sediamoci pure. Ma scusate, non l'abbiamo detto prima, cioè si vince in 8 casi su 11. Giusto? E poi tutti andate a fare... Non tutti. C'erano persone sedute, eh? Però un sacco di gente si è alzata in piedi. Giusto? Non ci siamo messi d'accordo, no? Penso. Ora, è vero che sono 3 casi, 4, 5, 6, ma complessivamente costituiscono l'82% delle giocate. Lo dico in modo diverso, ogni 100 persone che giocano, in media, 82 perdono. Lo dico in altro modo, ogni 100 volte che io vado a giocare al Wheel of Life, 82 volte perdo i miei soldi. Ok? Come volete, insomma, uno di questi modi. Siete 170 persone, circa, perché mi faccio metto a fare sti calcoli, 130 persone più o meno sono alzate in piedi. Ok? Tanti. Ok, noi abbiamo conosciuto le persone che hanno inventato questo gioco. Sono due ragazze di Milano, della Sisal. Le abbiamo conosciute una volta che sono venute a Torino, molto carine, a incontrarci per vedere se potevano denunciarci. È vero? E poi abbiamo fatto amicizia, insomma, perché non potevano denunciarci, perché noi spieghiamo come funzionano le cose. Quindi fin quando uno spiega, per fortuna, insomma, in Italia, insomma, uno può ancora spiegare le cose senza, insomma, minacce strane, insomma. Loro sono state gentilissime, davvero, insomma. Sono venute a controllare se facevano cose strane, no, insomma. Siamo matematici tutti e due. Ora, io potevo fare quello nella vita, cioè potevo andare dalla Sisal e inventarmi i giochi. È anche un bel lavoro, devo essere sincero. E si viene pagati anche abbastanza bene, insomma, un bel contratto, tempo in determinato, un colosso mondiale, insomma, siete sicuri di non perdere il lavoro, è un bel lavoro dal punto di vista matematico, insomma. Invece no, ho deciso di fare una cosa diversa, insomma, fare un lavoro che non, è, insomma, che non ha un nome, insomma, una società, insomma, che abbiamo fondato noi, insomma. E abbiamo deciso di fare cosa? Di spiegare come funzionano ste robe. Parlando con loro sono venute fuori un sacco di cose, noi abbiamo fatto i complimenti perché hanno detto, beh, dal regolamento di questo gioco, wow, figata, tutti vanno a giocare. Poi uno gioca e si rende conto di questa roba qua che è una regola matematica, ok? Anche, insomma, per capirsi si insegna a scuola, ok? Non è una roba, un segreto, insomma, terzo segreto di Fatima, ok? È una roba, insomma, che si fa a scuola, insomma. Bene, però le persone non lo sanno, la matematica, e quindi, insomma, vanno a giocare e poi si scontrano contro questa, che è la realtà. Ora, uno potrebbe dire, vabbè, io non lo sapevo sta roba, mi metto a giocare, perdo e quindi smetto di giocare. No. La gente che gioca questo gioco e perde, di solito non smette di giocare. Perché? Un sacco di voi hanno fatto 4. Chi ha fatto 4, ditemi se è vero o no, all'inizio non beccava neanche un numero. Magari ha cominciato a beccarne uno, poi dopo un po' ha preso il secondo. Ma fin quando uno è a 0, 1, 2 o 3, sta vincendo. Quindi ok, ne sto beccando pochi, ma sto vincendo. Poi alla fine, proprio alla fine, magari proprio l'ultimo numero per alcuni, il penultimo, arrivato al quarto numero, che sfiga, ho perso. Idem chi ha fatto 6, magari all'inizio ne ha beccati un bel po', dai che li becco tutti e 10 o quasi, magari faccio 9, magari faccio 8, magari faccio 7, 6. Il 5 è la via di mezzo. Cioè è impossibile andare lontano dal vincere. Giusto? Come fai ad andare lontano? Se con 3 vinci, se fai 4, insomma... Quindi tutti quelli che vanno vicini a vincere ma perdono, hanno perso i loro soldi, quindi dal punto di vista matematico non dovrebbero avere più voglia di giocare, ma dal punto di vista, invece di vista psicologico hanno voglia di giocare. Gli psicologi chiamano questa roba near miss, quasi vincita, è studiata da decine di anni, è stranoto che questa sensazione di essere andati vicino alla vincita ci porta a dare una voglia di giocare simile a quella della vincita. Quindi è come se, per il mio cervello, è come se avessi vinto. In realtà non ho vinto, ma è quella sensazione di frustrazione che mi dice, ok, stavolta non ho vinto, la prossima volta sì. Ci sono andato vicino. Pensateci un attimo, se uno gioca a calcio e colpisce un palo, dice che sfiga, per poco. Adesso ho voglia di tirare di nuovo, la prossima volta faccio gol. Colpisco il canestro ma la palla non entra, ho voglia di tirare di nuovo, la prossima volta calibro un pochino e faccio canestro. Qua non c'è niente di abilità, è solo fortuna, ma la sensazione che viene generata nel nostro cervello è identica a quella dell'abilità che conosciamo molto bene. Ok? Quindi chi perde in realtà va vicino a vincere. Gratte Vinci. Quanti tra di voi hanno giocato almeno una volta, avete comprato almeno una volta in Gratte Vinci? Siate sinceri. Alzate la mano. Tutti, dai, più o meno. Ok? Molto bene. Adesso alzino la mano solo quelli che hanno comprato almeno una volta Andrate Vinci e per vincere gli mancava, ad esempio, che ne so, il 25 e hanno trovato o il 24 o il 26. Vai, alzate la mano. Ok? Quante volte? No, non ha funzionato tanto. Ok? Di solito tutti. Ok? Noi abbiamo fatto un po' di statistica, insomma, prendete, noi ne abbiamo presi mi pare 5.000 di Andrate Vinci perdenti. Non li abbiamo comprati perché costavano troppo, allora abbiamo fatto una cosa altamente scientifica, siamo andati ai cestini dell'immondizia dei tabaccai, abbiamo preso tutti quelli buttati via, insomma abbiamo preso insomma, centinaia di migliaia di euro in Gratte Vinci, buttati via, e siamo andati a vedere in quanti c'era il meccanismo che vi ho appena descritto, ok? Oltre il 97% degli italiani hanno questo meccanismo. Ovviamente è fatto apposta, chi li stampa, senza far nome, l'automatica, tra l'altro monopolista, quindi insomma... Che controvenza hanno? Niente, loro stessi e basta. Ogni anno, sapete quanti sono gli Gratte Vinci stampati, cioè venduti in Italia ogni anno? Avete idea? Ve lo dico io, non ce l'avete idea se non avete comprato il libro Fate il nostro gioco. Che lo sappiamo noi perché l'abbiamo chiesto direttamente ai Monopoli di Stato, ci hanno dato questa informazione una volta che non hanno scoperto cosa facevamo di lavoro. E poi dopo, insomma, non ce l'hanno più dato il dato. Vabbè, ve lo dico io, noi siamo 60 milioni di italiani. Quanti Gratte Vinci compriamo ogni anno? Non è che tutti comprano Gratte Vinci, giusto? Pensate ai neonati, pensate agli ultracentenari. In media siamo 60 milioni di italiani, compriamo ogni anno 2 miliardi di Gratte Vinci. Non 2 miliardi di euro, 2 miliardi di biglietti. Ok? Comprati in Italia da 60 milioni di italiani. Ok, ogni anno. quindi 35 ciascuno, quindi non so quanti ne avete rompati voi l'anno scorso, insomma, in media 35 per ogni neonato, ultracentenario, eccetera, eccetera. Ok, vabbè, dicevamo, mi sono dilungato un po'. Ok, nei gratta e vinci è fondamentale, spendo 10 euro per un gratta e vinci, spendo 5 euro, spendo 20 euro, esistono gratta e vinci da 20 euro, se compro 20 euro di gratta e vinci e non vinco, devo avere almeno la sensazione di essere andato vicino, così ne compro un altro, ok? È la stessa roba, anche qua. Ok, benissimo, io voglio essere ottimista, 82 persone su 100 hanno perso, vuol dire che 18 persone su 100 hanno vinto. Non tutti si sono alzati in piedi, alcuni sono rimasti seduti. Giusto? Quanto ha fatto? 8, quindi ha vinto. Ok? Allora adesso si alzino in piedi chi? Anzi no, alzate la mano, facciamo prima. Chi ha vinto facendo 3 o 7? Chi ha fatto 3 o 7 alzi la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Più facile contarli adesso. Ok. Grazie. Voi avreste vinto. Stasera niente, ok? Però... se avessimo giocato soldi veri, con una schedina da 2 euro, avreste vinto 2 euro. Cioè, cosa avreste vinto davvero? Niente. Quindi stasera non avete vinto nulla. Se avessimo giocato soldi veri, anche. Ok? Bene. Siete stati anche un po' più sfortunati della media, perché degli 82 su 100 che vincono, abbiamo detto 18... 82 su 100 perdono, scusate. 18 su 100 vincono... dei 18 su 100 che vincono, 16 vincono facendo 3 o 7. Quindi in realtà questa sera mi aspettavo 20-25 persone. Siete stati anche un po' più sfortunati della media, diciamo così. Ok? Bene, andiamo avanti. Anzi, vi chiedo solo un'operazione matematica, l'unica, giuro, tutta la sera, l'unica domanda di matematica che vi faccio. Quanto fa 82 più 16? 98, non c'è neanche a riporto. Ok, benissimo. Quindi, riassumendo, la Sisal, quando stampa questa roba qua, dovrebbe fare una bella campagna pubblicitaria, tipo l'altro giorno, no? Finale di Champions, compra l'intervallo pubblicitario, che è il più costoso, insomma, e dice agli italiani, giocate al Wings of Life, 98 volte su 100 non vincerete nulla. Giusto? Perché 98 volte su 100 o perdo i miei soldi o pareggio. Questo, stranamente, non lo dicono. Si sono dimenticati, ecco. Ok, 2 volte su 100 uno vince qualcosa. Tra l'altro, domanda alle 11 persone che hanno alzato la mano prima: se andiamo a giocare al Wings of Life, spendiamo 2 euro e vinciamo 2 euro, cosa ve ne fate dei 2 euro appena vinti? Li rigiochiamo, giusto? Quindi di solito perdiamo i soldi. Quelle poche volte in cui li vinciamo diciamo no, ma i soldi tienteli, non mi interessano, dammi un biglietto, giusto? Quindi i soldi noi non li vogliamo, cioè giochiamo, ma vabbè, andiamo avanti. 2 persone su 100 vincono, e vincono normalmente facendo 2-8, in media facendo 2-8. Cosa vuol dire 2 persone su 100? Vuol dire che in media oggi 3-4 persone, ok? Tra di voi dovrebbero aver fatto 2-8. Non è che è la certezza che 3 o 4 persone. Magari sono 2, magari uno c'è, lo sappiamo già prima, ok? Magari ce ne sono 5 o 6, non ce ne saranno 15, ok? O 20. Che ne so. È una previsione, vediamo. Alzi la mano che ha fatto 2 o 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vabbè, tanti. 8, c'è anche lui. Ok, grazie mille. Tanti. Siete stati più fortunati della media. Okay, siete stati più sfortunati quelli che hanno fatto 3 o 7, un po' più fortunati quelli che hanno fatto 2 o 8. Ok, bene. Se avessimo giocato con soldi veri, voi avreste vinto degli importi, insomma, consistenti. Oggi niente, eh? Non vi avrebbero cambiato la vita, ma magari qualche bella vacanza ci stava, perché con una schedina da 2 euro avreste vinto 10 euro. Cioè, beh, no, figo, vincere 10 euro, non è che sto dicendo, però, insomma, non è che mi cambia la vita. E di nuovo, cosa me ne faccio di 10 euro? Beh, compro altre schedine, o magari mi compro il gratta e vinci da 10 euro, che è giusto lì, o me ne compro 2 da 5, fatto apposta, ovviamente, ok? Bene, andiamo avanti. Le vincite vere, quelle insomma i soldi, quelli ciccione, arrivano adesso. 1 o 9, una persona su 1000. Quindi mi aspetto che nessuno tra di voi abbia fatto 1 o 9, o magari una persona. Se siete molto più fortunati della media, 2. Se siete proprio botta di fortuna, 3 persone. Ma di nuovo non ci saranno 15 persone. Penso, ipotizzo, è una previsione. alzino la mano, oppure dica io, insomma, chi ha fatto 1 o 9? Non tutti insieme. Nessuno? Ok, la previsione era 1 su 1000, giusto? Voi siete 170, quindi la cosa più probabile era 0, cos'è? 0, mi sono perso, 0,17, sto dicendo una cavolata, sì. Ora, 0,2 persone era difficile, no? Quindi la cosa più probabile era 0 persone, magari 1. Ok? Cosa è successo? 0 persone hanno fatto 1 o 9. Avrebbero vinto 1000 euro, 100 euro, scusate, non esageriamo. Chi fa 0,10? Nessuno, giusto? Qualcuno tra di voi ha fatto 0,10? Nessuno. Avrebbe vinto 10.000 euro. E non si vincevano 3.000 euro al mese per 20 anni? E già, mi sono dimenticato di dirvi una cosa, dovete fare 0 o 10 e in più dovete indovinare il numerone. Cos'è? Non ve l'ho neanche spiegato. Sotto c'è un altro riquadro con i numeri dall'1 al 20. Se voi indovinate tutti i 10 o nessuno e in più indovinate il numerone, vincete 3.000 euro al mese per 20 anni. Ok? Anzi no. Dovete fare 10 o 0, indovinare il numerone ed essere gli unici in Italia ad aver vinto. Allora in quel caso vincete 3.000 euro al mese per 20 anni. Ok? Voi direte, vabbè, insomma, cioè, qual è la probabilità che io vinca insieme a un altro, no? Li indovini tutti e 10, indovini il numerone e sia, insomma, ci sia qualcun altro in Italia che in quell'ora lì vince 3.000 euro al mese per 20 anni. Giusto? È difficile. 18 marzo 2010, ore 19, vengono estratti i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Numerone 10. Ora, qualcuno tra di voi si è giocato i numeri dall'1 al 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6 persone. Ok, benissimo. Questa è la decina più giocata in Italia. Ok? Ce l'hanno detto quelli della Sisal, insomma, quando, vabbè. Detto, vi dico queste cose, ma voi non le dite. Sì, sì, tranquillo, non le diciamo a nessuno. Ok, bene, se la decina più giocata in Italia esce, e può uscire, come tutte le decine, ok? Può uscire. Insomma, se giocate dalle 8 alle 22 ogni ora per anni, 10 anni, prima o poi esce, normale, insomma, non ci stupiamo. Ma se quella l'hanno giocata in tanti, tanta gente fa 10. Sapete qual è la decina più giocata dopo questa? È la decina dei numeri dall'11 al 20. Chi ha giocato i numeri dall'11 al 20, se escono i numeri dall'1 al 10, quanto fa? 0. E quindi vince un sacco di soldi. Di questi molti hanno indovinato anche il numerone. E quindi hanno vinto, al tempo erano 4.000 euro al mese per 20 anni. Sulla stedina c'era scritto, hai indovinato 10 numeri? Sì. O 0 numeri? Sì. Hai indovinato il numerone? Sì. Vinci 4.000 euro al mese per 20 anni. Immaginate le persone che avevano questa stedina in mano. Okay? Indovino tutti i 10 numeri, indovino il numero, immaginate cosa fanno. Io non l'ho mai conosciuto, insomma, però insomma, ci sono stati. Okay? Immagino, uno non dico che si licenzi, ma forse sì, insomma, no? Non dico che cambia completamente vita, ma insomma direi che qualche festeggiamento se lo può permettere. Ok, poi mi immagino questa scena, che non ho vissuto, ma me la immagino, di una persona che vince e va a ritirare i soldi con la sua schedina, magari va dal col notaio se vuole, no? Comunque va dalla Sisal con la sua schedina, bene, mi dia i primi 4.000 euro e poi questo è il mio IBAN da qua, nei prossimi 20 anni 4.000 euro. E mi immagino quello della Sisal che dica, sì è vero, lei ha vinto, ma guardi che non ha vinto 4.000 euro. Come no? C'è scritto così. Ma lei l'ha letto, regolamento. Che regolamento? Il regolamento ufficiale del gioco, 35 pagine di regolamento, l'ha letto prima di giocare. No, figurati, ti ho comprato la schedina. Vabbè, però comprando la schedina lei accetta il regolamento di gioco. Guardi che il premio va diviso e siete in più di una persona ad aver vinto. Allora immagino questa persona dice, beh, insomma, se siamo in due, accidenti, non sono 4.000 euro, ma sono 2.000. Sono un sacco di soldi. Se siamo in quattro, sono 1.000 euro al mese per 20 anni. E no, guardi che non siete in due, in tre o in quattro, siete in 59. Ora 4.000 diviso 59 fa 67 euro e 80 centesimi, che è quello che hanno vinto davvero i 59 vincitori più sfortunati della storia, ok? Sono riusciti a fare quella roba lì, ma erano in troppi e quindi hanno vinto quell'importo lì. Immaginate queste persone che ogni mese si vedono arrivare un bonifico da 67 euro e 80 quando se l'aspettavano da 4.000, ok? Tra l'altro ogni mese per 20 anni di fila, pensate, vabbè. Ok, questa probabilità qua è 1 su 2 milioni. Ok? Bene, ma allora alla fine della fieva ci conviene giocare a questo gioco qua? Sì o no? Ora è la domanda essere sbagliata, non è la risposta essere sbagliata. Ora non ha senso chiedere se conviene o non conviene giocare a un gioco. Uno dovrebbe chiedere conviene o non conviene giocare a un gioco una volta? E la risposta è dipende. Se giochi una volta, se sei molto fortunato, è la botta di fortuna, indovini 10 numeri e vinci un sacco di soldi, certo che ti è convenuto. Se sei sfortunato, no. Le persone pensano questo, ok? Ma il problema non è giocare una volta o due. Se giocaste tutti una volta o due, se giocassimo in Italia tutti una volta o due, non saremmo qua stasera, ok? Il problema è che c'è un bel po' di gente che gioca un sacco di volte. E allora, se la domanda è conviene o non conviene giocare un sacco di volte, la risposta è no. Perché se uno gioca una volta o due, se sono molto fortunato, posso anche vincere. Se gioco tante volte, è impossibile vincere. Perché entra in gioco non la fortuna, ma la matematica. Giochiamo 10 milioni di volte questo gioco, 82 volte su 100 perdiamo, cioè 8 milioni 200 mila volte perdiamo i nostri soldi. E così via, 1 milione 600 mila volte pareggiamo, facendo 3 o 7. 200 mila volte vinciamo i 10 euro, no? Come prima voi. Poi ci succederà 10.000 volte di vincere 100 euro, 100 volte vinceremo i 10.000 euro, scusate, e 5 volte vinceremo i 3.000 euro al mese, supponiamo di essere gli unici. Ok, in più, non ve l'ho detto, ma oltre a tutti questi ci sono un sacco di altri premi, che se giocate vincerete, ok? Questo che vedete, insomma, di fronte a voi, è il vostro futuro se giocate 10 milioni di volte al Win for Life, ok? È sicuro, è matematico, andrà a finire così. Poi non è che uno vinca proprio 8 milioni, cioè perda 8 milioni 200 mila volte tonde, insomma un po' di più, un po' di meno, ma intorno a quelle volte lì. Ora uno cosa deve fare? Deve fare i calcoli, sommare, moltiplicare e vedere alla fine se qua in fondo c'è un segno meno o un segno più. Se c'è un segno più vuol dire che ha sbagliato i calcoli, perché vorrebbe dire altrimenti che conviene giocare, vuol dire che mi faccio i soldi. Se fosse così mi conviene giocare, ok? Perché vuol dire che è un modo sicuro e legale per farsi soldi. Io ho conosciuto un tizio, si chiama Mohan Srivastava. Chi tra di voi conosce, ha mai sentito nominare Mohan Srivastava? Quindi nessuno di voi ha letto il mio libro, ok? Va bene? Perché l'unico libro in cui parliamo della sua storia è il nostro libro, almeno in Italia, insomma. Mohan Srivastava è un geostatistico canadese che ho avuto il piacere di conoscere quando, insomma, sono andato in Canada per vacanza, ma insomma l'ho trovato. Mi sono fatto raccontare la sua storia. Lui è un geostatistico canadese che aveva questa peculiarità qua. Andava a comprare Gratta e Vinci. Sapete che quando comprate Gratta e Vinci potete chiedere, no? Mi dia quello lì, insomma. Si fa anche in Italia. In Canada è obbligatorio, non possono darvene uno. Proprio dovete indicarlo, ok? E lui andava lì, guardava e diceva voglio quello lì, quello lì, quello lì. Il piccolo particolare è che prendeva solo quelli vincenti. Che lui riusciva a riconoscere un Gratta e Vinci vincente da uno perdente guardandoli, ok? Bene, ecco, se lui avesse fatto i suoi calcoli, qua sarebbe venuto un bel segno più, ok? Per la cosa che ha fatto i calcoli, lui guadagnava, o avrebbe potuto guadagnare, $800 al giorno. Con questo metodo, ok? E non è, insomma, non sono fandoni, è vero. Ed è così vero che lui cosa ha fatto? Quando se n'è accorto, ha telefonato a quelli che producevano i Gratta e Vinci in America, in Canada, e ha detto, guardate che io so distinguere quelli vincenti da quelli perdenti, c'è un baco. Cosa hanno fatto, secondo voi, se un geostatistico ti telefona e ti dice, guarda che c'è un baco nella stampa dei vostri Gratta e Vinci, so distinguere quelli veri da quelli falsi? Cosa è successo? Assolutamente niente. Se ne sono fregati, vedete, questo è un pazzo, vabbè. E allora lui dopo qualche giorno ha detto, ah già, è vero, mi avevano preso per un idiota, ma non è un idiota, Mohan. E allora cosa ha fatto? Ha preso 20 Gratta e Vinci a caso, ok? Poi li ha guardati, quindi senza grattarli, e ne ha messi 13 in una busta e 7 in un'altra busta, separate. E in quella busta da 13 ha scritto perdenti, quelli da 7 ha scritto vincenti. Li ha spediti in una busta più grande alla stessa persona a cui aveva telefonato dicendo che aveva trovato il baco. Questa persona ha ricevuto la busta, mezz'ora dopo l'ha chiamato ringraziandolo e il giorno dopo erano eliminati tutti i Gratta e Vinci dal Canada di quella tipologia lì, ok? Lui è riuscito a distinguere effettivamente i Gratta e Vinci vincenti da quelli perdenti, come? Usando la matematica, ovviamente. Bene, a lui veniva più. Se volete sapere come faceva, c'è un bellissimo libro che racconta la storia. a noi comuni mortali viene meno. Ok? Meno quanto? Se viene fuori meno 10 euro, 100 euro, fate quello che volete. Chi se ne frega, uno passa tutta la vita, butta via 100 euro. Il fatto è che qua non viene fuori 100 euro, 10 euro, viene fuori meno 7 milioni di euro. Se uno gioca al Win for Life tutta la vita, cioè 10 milioni di volte, mettiamo così, perderà sicuramente intorno ai 7 milioni di euro. Magari perderà 7 milioni e 100, magari perderà 6 milioni e 9, ma intorno ai 7 milioni. Lo sappiamo tutti, il banco vince sempre. Ok, da questa sera sappiamo anche quanto vince. Si può calcolare. Voi non giocate al Win for Life, giocate a scommesse sportive. Bene, dobbiamo cambiare un po' i numeri, ma il risultato è molto simile. Magari non è 7 milioni, magari è 6 milioni e mezzo, magari è 5 milioni, magari è 8 milioni, a seconda del gioco a cui stiamo giocando, ok? Ma è sempre meno, e poi vi so anche dire quanto. Quindi è prevedibile matematicamente. Noi lavoriamo spesso con i giocatori patologici, cioè chi ha perso centinaia di migliaia di euro, di solito, col gioco d'azzardo. Quando arriviamo a questo livello, cioè quando arriviamo a dire loro che qualcuno qualche anno prima sarebbe potuto andare da loro e avrebbe potuto dire quanti soldi avrebbero perso, di solito non la prendono benissimo. Perché vuol dire che era assolutamente pianificato, non è un caso, ok? È matematica. Infatti di solito le reazioni non sono piacevolissime, insomma. Perché vendiamo delle persone, diciamo, lei cosa ha giocato? Bingo, ok, quante volte a settimana? 6 volte a settimana, non giocavo il sabato perché venivano i miei nipoti, tutte le altre sere sì. Quando? Dalle 21 alle 24, ok, quante cartelle comprava? Ok, ci dà i numeri di quello che ha fatto e noi diciamo quanti soldi ha perso. E quando lo scopre, insomma, rimane abbastanza allibito, perché? Perché era assolutamente prevedibile, matematico, certo. Ok, dopo questo momento di depressione, insomma, abbiamo capito più o meno forse come funziona questa roba qua, passiamo a qualcosa di allegro e vi racconto la storia di un omicidio. Duplice omicidio. 3 ottobre 1995, Los Angeles. Polizia di Los Angeles, stato di massima allerta, teme delle sommosse popolari. Perché? E sono le 10 del mattino. E in America è come se l'America si fosse fermata. Borsa di New York, volume degli scambi scende del meno 50%, telefonate meno 40%, le strade americane sono vuote. È un po' come durante la finale dei mondiali in Italia, ok? Tutti sono davanti alla TV o davanti alla radio, 1995, per scoprire che cosa. Che cosa ha deciso la giuria di un processo. Il processo è il processo più famoso in America, il processo O.J. Simpson. O.J. Simpson è questo signore qua, è un giocatore di football americano, molto famoso in America, famosissimo in America, questo è sempre lui, questo è lui sulla copertina di People. In Italia non lo conosciamo perché non seguiamo il football americano, ma è un po' come se fosse Ronaldo. Se anche uno non segue il calcio l'ha sentito nominare, ok? Lì è famosissimo, in più lui è appena andato in pensione, diciamo, e cosa fa nella vita? Fa l'attore. In Italia forse abbiamo già visto i suoi film, soprattutto chi ha qualche annetto, insomma, come me, ha visto un film di altissimo valore intellettuale, si chiamava, una serie di film, si chiamava Una pallottola spuntata. Non so se avete presente, film demenziale anni 90, lui era il poliziotto nero. Se avete presente il film, lui, ok? O.J. Simpson. Uomo di spettacolo famosissimo, nonché uomo di sport famosissimo. Bene, lui era stato era stato ipotizzato, era stato accusato, scusate, ce l'ho fatta, era stato accusato di duplice omicidio. Questa è la sua foto segnaletica, scattata dalla polizia il 17 giugno 1994. Lui era stato accusato del duplice omicidio della ex moglie, Nicole Brown Simpson. Chissà se compare anche la ex moglie. Non funziona più. Oh, che bello. Ok, sì. Scusate, ex moglie, ok, e del fidanzato di lei. Ora, trovano il cadavere di lei nel giardino di casa di Nicole Brown Simpson. Il cadavere di lei in un lago di sangue. Lei e il fidanzato di lei. Lo trova un passante col cane. Allora arriva la polizia e subito cerca di indagare sull'omicidio. Sapete, i primi minuti sono fondamentali. Lei era famosissima, ovviamente, in quanto ex moglie di O.J. Simpson. La polizia sapeva benissimo che l'ex marito, O.J. Simpson, abitava lì vicino. Appena scopre l'assassinio, va dall'ex marito per avvisarlo di quello che è appena successo. Quindi il poliziotto va, i due poliziotti arrivano a casa di O.J. Simpson e vedono la macchina di O.J. Simpson parcheggiata davanti a casa. Guardano meglio dentro e trovano macchie di sangue nella macchina. È già un po' sospetto, no? Allora scavalcano le pareti della villa di O.J. Simpson, entrano dentro e trovano un guanto insanguinato. Insomma, i sospetti si fanno più forti, vanno a casa, trovano O.J. Simpson, insomma, diciamo che in altri casi l'avrebbero arrestato, ma lui è famosissimo, ok? E quindi non l'arrestano immediatamente, impiegano 3 giorni ad arrestarlo, lui il 3° giorno, anziché consegnarsi alla polizia, quando finalmente decidono di arrestarlo, scappa. Scappa, minaccia di suicidarsi. L'inseguimento, parte un inseguimento, c'è la sua macchina guidata da un amico con lui dietro che minaccia di suicidarsi, viene ripresa in diretta televisiva da tutte le telecamere americane, che viene trasmessa, diciamo, da tutte le reti americane, insomma, tra l'altro durante la finale, insomma, di una partita molto famosa, eccetera eccetera, tutti gli americani seguono in diretta l'inseguimento. Alla fine lui si consegna alla polizia e parte il processo, okay? Lui è fortemente sospettato del processo. Questa storia forse l'avete già sentita, perché 2 anni fa è uscita una serie TV proprio su questo caso, il caso O.J. Simpson, che tra l'altro ha vinto l'Oscar come miglior documentario. Una bellissima serie su Netflix, giusto per fare un po' di pubblicità. Come va a finire? Perché la polizia temeva le sommosse? Perché quando la polizia trova il cadavere di Nicole Brown Simpson, lui viene accusato di omicidio. Sembra il classico caso di uomo nero accusato di aver ucciso la donna bianca. E infatti tutto il processo, insomma, verterà su questi temi, ok? In realtà non c'entra niente il razzismo in questa storia, ok? Però, insomma, in America, 1995, succede un caso del genere, ok? Tutti sono molto attenti a quelli. E quindi si temono delle sommosse per quel motivo. Succede che in generale gli americani neri tendono a difendere O.J. Simpson, perché dicono la polizia l'ha arrestato per quel motivo, in quanto nero. Le donne americane tendono a ritenerlo colpevole, perché la vittima è una donna. In realtà c'era anche l'ex fidanzato, ma lui proprio non se lo filava nessuno, tristemente. Ma è vero, giuro, è pazzesco questa storia, cioè, come se non ci fosse stato. È stato trucidato anche lui. Ma. Qual è il problema? È che dei 12 giurati del processo, 9 sono donne nere. E quindi non si capisce se queste donne nere, in quanto nere, tendono a difenderlo, in quanto donne tendono a ritenerlo colpevole. Vi dico come va a finire. 3 ottobre 1995, 10 del mattino, il presidente della giuria dà la parola ai giurati, e i giurati emettono il verdetto. Il verdetto che passa alla storia è not guilty, non colpevole. Così vi ho già rovinato la serie TV, se volevate vederla, vi ho già spoilerato il finale. Okay? Lui non è colpevole, o meno viene dichiarato non colpevole. In realtà è interessantissima tutta la storia, gli americani lo sanno benissimo come è finita la storia, ma tutti sono andati a vedere la serie TV perché è interessantissima. In questa serie però non raccontano la cosa più interessante, a nostro avviso, che è questo. A un certo punto nel processo più seguito della storia degli Stati Uniti d'America usano la matematica per cercare di stabilire se lui è colpevole o innocente. E noi adesso vi raccontiamo quel pezzettino, cioè io cosa faccio? Mi piazzo qua e vesto i panni dell'accusa, cioè cerco di convincervi che lui è colpevole. Poi mi piazzo di qua e vesto i panni della difesa, cioè cerco di convincervi che è innocente, usando la matematica. Voi cosa dovete fare? Da adesso in poi, lasciate stare tutto quello che vi ho detto adesso, concentratevi solo su quello che dirò da adesso in poi e cercate di capire se vi convince di più quello che dice l'accusa o se vi convince di più quello che dice la difesa. Mettetevi nei panni dei giurati. Ok, dopo dovete votare. Ok? Pronti? Signori della giuria, O.J. Simpson secondo me è colpevole, per tanti motivi, ma non riesco a dimostrarlo. Non riesco a dimostrarlo oltre ogni ragionevole dubbio. E allora vi chiedo di fare attenzione a questo fatto. Ora, Nicole Brown Simpson è stata trovata morta in quel modo. Ci sono le foto, per ovvi motivi io non ve le faccio vedere stasera, ok? Ma ci sono tutte le foto che vengono fatte vedere ai giurati. Ora, se indagando sulla moglie scoprissimo che l'ex marito è uno stinco di santo, non possiamo sospettare di lui in quanto ex marito. Ma se investighiamo su di lui e scopriamo che lui è una persona violenta, le cose cambiano, giusto? Bene, O.J. Simpson è una persona violenta, punto. Come faccio a dirlo con questa certezza? O.J. Simpson picchiava la moglie. Infatti era l'ex marito. Lei ha subito le percosse più e più volte per anni, senza denunciarlo, è andata più volte in ospedale, una volta ha trovato il coraggio di denunciarlo. È andato alla polizia, e la polizia in quella volta, in quella sede, ha scattato delle foto. Vi faccio vedere solo la foto più accettabile, ok, che è questa. Le altre sono molto peggio, ve le risparmio. Quindi, noi cosa sappiamo di Nicole Brown Simpson? Che era sposata con O.J. Simpson e O.J. Simpson la picchiava. Quindi O.J. Simpson è un uomo violento. Per quello è già stato condannato in un altro processo. Quindi è certo che la picchiava. Ora, se indaghiamo su una donna uccisa in quel modo brutale, indagando su di lei scopriamo che l'ex marito la picchiava, è altamente probabile che l'abbia sia stato proprio lui a ucciderla. Non è certo, ma è alta la probabilità che l'abbia uccisa alla luce del fatto che la picchiava. Vi convince come motivazione? Questo è quello che dice la difesa, l'accusa, scusate. Non posso dire con certezza che è stato lui, ma visto che lui è l'ex marito e lui la picchiava, se lei la trovate morta, chi volete che sia stato? Non è certezza, ma è alta la probabilità che sia stata lui. Ok, parola a questo punto la difesa. Difesa O.J. Simpson composta dagli avvocati più pagati della storia degli Stati Uniti d'America, ok? In assoluto più pagati. Cosa dicono i difensori O.J. Simpson? Signori della giuria, il mio collega dell'accusa ha cercato di convincervi che O.J. Simpson picchiava la moglie ed è un uomo violento. Sapete cosa vi dico? Ha ragione. È vero. O.J. Simpson è un uomo violento che picchiava la moglie. E infatti io sono il suo difensore, ma personalmente, umanamente, come persona mi fa schifo. Una persona che picchiava la moglie. Infatti lei lo ha lasciato e sono separati. Ma questo non è un processo per le percosse che lei certamente ha subito. Questo è un processo per omicidio. Voi dovete stabilire se l'ha uccisa proprio lui o no. Lui diceva è alta la probabilità che l'abbia uccisa, ma non ha tirato fuori i numeri. E allora i numeri li tiro fuori io. Calcoliamo la probabilità, se è alta ragione lui, se è bassa no. Quali sono i numeri? Noi dovremmo sapere quante sono le donne in America picchiate dai rispettivi mariti. Lo sappiamo questo dato? Sì. In America ci sono statistiche ovunque, per qualsiasi cosa. Si sa quante sono le donne picchiate dai rispettivi mariti in America nel 1994. Risposta 4 milioni di donne. Per la cronaca, pensateci un istante, 4 milioni di donne in America nel 1994 vengono picchiate dai rispettivi mariti. Tra queste 4 milioni di donne c'è lei. Quante di queste però vengono uccise? Risposta, 1600. Ora, 1600 sono tantissime, ma rispetto alle 4 milioni sono poche. In che senso? Sono sempre tantissime, ma 1600 su 4 milioni, se voi fate la divisione, viene fuori uno ogni 2500. Vuol dire che ogni 2500 donne, come Nicole Brown Simpson, che vengono picchiate dai rispettivi mariti, solo una poi viene uccisa. Le altre 2499, per fortuna, no. Quindi noi sappiamo che lei è stata picchiata ed è stata uccisa. Quindi qual è la probabilità che una donna picchiata poi venga uccisa? 1 su 2500. 1 su 2500 fa 0,04%. Questa è la probabilità che un uomo che picchia la moglie arrivi a ucciderla. Quindi lui diceva è alta la probabilità che l'abbia ucciso lui. La probabilità vera è 0,04%. Questa è la probabilità che lui sia innocente, sia colpevole, scusate. Signori della giuria, potete condannare alla pena di morte una persona o all'ergastolo? Una persona che ha la probabilità di essere colpevole dello 0,04% e la probabilità di essere innocente del 99,96%. A voi la parola. I giurati devono decidere, devono dire secondo me è più probabile che abbia ragione lui, secondo me è più probabile che abbia ragione l'altro. Ok? Quindi adesso vi chiedevo di alzare la mano. Pensateci un istante. Una di queste due argomentazioni è giusta, è vera, l'altra è sbagliata. I dati, i numeri, ve lo dico io, sono tutti giusti. Solo le argomentazioni, una delle due è sbagliata, perché altrimenti usando la matematica abbiamo detto una cosa, probabilità alta, hai ben detto la sua cosa opposta, probabilità bassa. Non è possibile, giusto? O è alto o è basso. Bene, alzi la mano chi ritiene che abbia a ragione l'accusa, cioè che è alta la probabilità che l'abbia uccisa lui perché la picchiava. Alzate la mano se date ragione all'accusa. Ok, abbassate la mano. Alzi la mano chi dà ragione alla difesa, cioè l'uomo spregevole e schifoso, ma è bassa la probabilità che l'abbia uccisa. Prego, ci sono molti astenuti. Ok, benissimo, vi siete più o meno divisi a metà, ma direi che sono più numerosi quelli che danno ragione alla difesa. Ora, stiamo parlando di matematica, non stiamo parlando che non sia proprio una bella personcina, è chiaro a tutti. Ok, bene, adesso vi dico qual è il ragionamento sbagliato, ma prima vi dico una cosa, se fossimo in un processo vero, vuol dire che molti di voi stanno dando ragione all'accusa e se stanno sbagliando stanno rischiando di mandare all'ergastolo o alla pena di morte un innocente. Se state sbagliando nel verso opposto, state rischiando di scarcerare un innocente, di scarcerare un colpevole, un duplice omicida. Ok? Perché? Perché stiamo calcolando male le probabilità. Avete presente quando dicono, ma tanto la matematica, no? Cosa me ne faccio nella vita? Ok? Quello che vi sto raccontando è vero, è successo tutto davvero. Dice, ma nelle aule di tribunali la matematica non conta niente. Conta e come? Cosa vuol dire oltre ogni ragionevole dubbio? Quello vuol dire, probabilità alta, molto alta. Non avete mai la certezza che uno sia colpevole. Mai. Neanche se confessa. Magari confessa per proteggere il figlio. Ok, quindi non avete la certezza. Ok, bene, vi dico io chi ha ragione e chi ha torto, ve lo dico subito. Il ragionamento sbagliato tra i due è il ragionamento della difesa. Il ragionamento che ho fatto quando ero qua era sbagliato dal punto di vista matematico. In che senso? Logico matematico. In che senso? La difesa si era dimenticata un piccolo dettaglio che è questa. Nicole Brown Simpson è morta. Come fa a essersi dimenticata in un processo per omicidio che la donna uccisa è stata uccisa? In questo senso, cosa diceva la difesa? Ve lo ricordate? 4 milioni di donne ogni anno vengono picchiate dai rispettivi mariti, ex mariti, compagni, ok? In America. Vero. Poi cosa diceva? 1000 tra queste donne c'è Nicole Brown Simpson, giusto? Vero. Mi seguite tutti? Ok, adesso siamo al punto chiave. Cosa sappiamo noi di Nicole Brown Simpson? Due cose. Una, veniva picchiata. Due, qual è l'altra cosa che sappiamo? Che è morta. Non solo è morta, cosa sappiamo? Qualcosa di più. Che è stata uccisa, giusto? Se l'abbiamo trovata in un lago di sangue non si sarà suicidata, insomma. Okay? Ha preso qualcosa come decine e decine di coltellate. Okay? Quindi sappiamo che è stata uccisa da qualcuno. Allora noi, Nicole Brown Simpson, non è solo una delle 4 milioni di donne picchiate dal marito e basta. È una delle donne che viene picchiata dal marito e che poi è stata trovata uccisa. Quelle picchiate dal marito e poi trovate uccise sono molte di meno. Non sono 4 milioni. Ok? Quelle picchiate dal marito e poi trovate uccise da qualcuno, non sappiamo ancora chi l'abbia uccisa, ma è morta o uccisa da qualcuno, sono molte di meno. Quante sono? 1800. 1800 donne sono in America, quelle picchiate dal marito e poi trovate uccise, non sappiamo da chi. Nicole Brown Simpson non è una di queste 4 milioni, è una di queste 1800. Quindi non dobbiamo concentrarci sulle 4 milioni, dobbiamo concentrarci sulle 1800, perché Nicole Brown Simpson è una di queste 1800. Delle 1800 donne picchiate dal marito e uccise da qualcuno, quante sono state uccise proprio dal marito? Quelle di prima, giusto? Cioè 1600. Ok, ma 1600 su 1800. Non 1600 su 4 milioni. Perché 1600 su 4 milioni vuol dire una ogni 2500, probabilità bassissima, quello che diceva la difesa. Ma è sbagliato. Il ragionamento giusto è 1600 su 1800. E 1600 su 1800 vuol dire 90 persone ogni 100. In quella situazione vengono effettivamente uccise dal marito. Quindi la polizia fa benissimo a sospettare del marito. In un caso come quello, 90 volte su 100 è lui l'assassino, 9 volte su 10 è lui l'assassino. Quindi questo indizio, cioè un indizio di colpevolezza, è stato usato nel processo più seguito della storia degli Stati Uniti d'America come indizio di innocenza, di non colpevolezza. Okay? Grazie alla bravura degli avvocati di O.J. Simpson e all'ignoranza di matematica e alla difficoltà della matematica percepita da tutti, non solo dagli avvocati, ma anche dai giurati e anche dalle 100 milioni di persone che seguono il processo in televisione. Nessuno si accorge di questo errore matematico, che viene scoperto solo dopo la fine del processo. Lui è stato dichiarato non colpevole, quindi se anche oggi dicesse no, in realtà sì, l'ho uccisa io, nessuno gli può fare più nulla, perché il processo è finito con una non colpevolezza. Per la cronaca, oggi O.J. Simpson viene ritenuto colpevole da chiunque, se andate in America chiedete, tutti lo ritengono colpevole. Lui l'ha quasi confessato, diciamo, scrivendo un libro autobiografico che si chiama If I Did It, se fossi stato io. If I Did It. Solo che if iniziale è scritto piccolissimo. Quindi sulla copertina compare gigantesco I Did It, sono stato io. Ok? Ciò nonostante, appunto, è stato dichiarato non colpevole, ma oggi si trova in carcere per un altro fatto, rapina a mano armata e sequestro di persona, sta scontando 33 anni di carcere, per quello, non per l'omicidio. Adesso è stato scarcerato proprio l'anno scorso per buona condotta e questo ovviamente ha alimentato le polemiche sulla cosa. Ora, perché vi abbiamo raccontato la storia di O.J. Simpson? L'errore matematico è stato di tipo probabilistico. Usando la probabilità, la gente non ha capito nulla e ha dichiarato non colpevole, anche grazie a questo, una persona che molto probabilmente era colpevole di duplice omicidio. Gli stessi identici meccanismi sono quelli usati nel gioco d'azzardo. Okay, pensate quanto è complicata questa roba qua. Ora, l'ultimissima parte, ok, mancano pochi minuti. Se resistete ancora 10 minuti, ce la fate? Sì? Vai, ok. Lo so, è pesante sta roba qua. L'ultima parte è più leggera, tranquilli, che non parleremo più. No, non è vero, parliamo ancora di morti, ma è più leggera, o meglio, molto più veloce, e ci sono dei video per svegliarsi un po', insomma, prima di tornare a casa. È dedicata a una cosa fondamentale. Sapete qual è la probabilità di vincere al Super Enalotto? Se uno si gioca 6 numeri su 90, qual è la probabilità di beccarli tutti e 6? 1 su 650 milioni. Che precisione. Giusto? No? Quanto? 1 su 1 miliardo. 1 su? Lo sapete? Non lo so. Sparate a caso. 1 su? 1 su 1000? No. 1 su 1 milione? 1 su 100 milioni? 1 su 50 miliardi? Ora, la domanda è questa, riuscite a percepire la differenza tra questi numeri? Siete sinceri, cosa pensate? Man mano che vado avanti voi dite, uno su, vabbè, uno su un numero grande, basta, dai. Ora, c'è una differenza enorme tra uno su 100 milioni e uno su 50 miliardi, ma enorme. Allora, per avere un po' di percezione di questo, ci siamo inventati sta roba, che abbiamo presentato dal littizzetto, volevamo presentarlo tutte e 10, ma poi non ci siamo riusciti, che parlava spesso lei. Ora, 10 cose, ma oggi ne vediamo molte di meno. In ordine di probabilità, decima posizione, molto facile, lancio una moneta, qual è la probabilità di fare testa lanciando la moneta? 50%, giusto? 1 su 2, se vogliamo. Ok, questo è così facile che la sanno anche i calciatori, quindi... Ok. Nona posizione, noiosa, l'ottava posizione, noiosa, settima posizione, Diego, il mio socio, insomma il fisico, qual è la probabilità che Diego da oggi, che è il... 4 giugno 2019, qual è la probabilità che Diego dal 4 giugno 2019 al 4 giugno 2020 Diego muoia in incidente stradale? Giusto per parlare un po' di morti, insomma. In un anno, qual è la probabilità che Diego muoia in incidente stradale? Ve lo dico io, è un dato medio, ok, prendo Diego come campione, insomma, ma ovviamente dipende se uno beve, insomma, guida, ovviamente la probabilità aumenta, insomma, ma mediamente... La probabilità è che una persona in un anno muoia in incidente stradale in Italia è 1 su 20.000. Ok? Boh, tenetelo lì. 1 su 20.000, una persona in un anno in incidente stradale. Sesta posizione. Qual è la probabilità che la Terra venga colpita dall'asteroide 99942 Apophis il 12 aprile 2068? Ora, questo è quello che io chiamo il momento Katzenger della conferenza, perché sembrano tutte balle, ma sembro Giacobbo, ok? Però a differenza di Giacobbo dico le cose vere, insomma, c'è questa piccola differenza. Qual è la probabilità di questo asteroide, che è vero, insomma, esiste davvero, andate sul sito della NASA, si sta avvicinando alla Terra, ma nel 2036 ci passa vicino, ma poi se ne va. Nel 2068 torna. 12 aprile 2068 potrebbe colpirci. Ce ne sono tanti di asteroidi, perché ci concentriamo su questo? Perché è gigantesco. E la NASA ha calcolato che se ci dovesse colpire, l'energia generata dall'impatto tra questo asteroide e la Terra sarebbe pari a quella generata da 80.000 bombe atomiche. Avete presente Hiroshima? Quella, 80.000 di quelle nello stesso istante nella Terra. Quindi verosimilmente fine della vita sulla Terra o qualcosa del genere. Ok? Qual è la probabilità che succeda davvero? Non è zero. Non è zero. È 1 su 150.000. Ok? Diego, qual è la probabilità che Diego dal 4 giugno 2019 al 4 giugno 2020 muoia in incidente aereo? Stessa roba di prima. Dipende da quante volte prende l'aereo, no? Dipende da quale aereo prendo. Ok, un valore medio. Vi ricordate, in macchina era 1 su 20.000, giusto? In aereo è 1 su 500.000. Cosa vuol dire? Che è molto più probabile morire in macchina che non in aereo. Quindi ogni volta che prendiamo l'aereo, dobbiamo dire, meno male, sto prendendo l'aereo, posso stare tranquillo. E ogni volta che saremo in macchina, dobbiamo dire, oddio, qua la probabilità di morire è abbastanza alta. Cosa ci succede di solito? L'esatto contrario. Saliamo sull'aereo, abbiamo paura, saliamo sulla nostra macchinina, ah, che bello, siamo tranquilli, siamo al sicuro. Ok, la percezione è esattamente l'opposta. 25 volte più probabile morire in macchina che non in aereo. Poi certo, dipende quante volte uno prende l'aereo, ovviamente. Se non prendo mai l'aereo, Diego magari non prende mai l'aereo, l'aereo può prendere Diego, ovviamente. Insomma. Però. Quarta volta, finalmente, gioco d'azzardo, probabilità di scala reale massima 1 su 650.000. Terza posizione, probabilità di vincere la Wing for Life. Perché prima me la sono presa con Lorenzo? Qual è la probabilità che Lorenzo beccasse tutti i 10 numeri e magari anche il numero 1 vincesse 3.000 al mese per 20 anni? 1 su 2 milioni. O meglio, 1 su 1.847.560, farvi precisi, ok? E a questo punto della classifica, qua, ok? Cioè 10 volte è probabile che la Terra venga distrutta dall'asteroide piuttosto che lui riesca a colpire tutti i 10 numeri, beccare tutti i 10 numeri più il numerone, capite? Non è impossibile, ma è a questo livello. Seconda posizione, la preferita, diciamo, di questa classifica, noi siamo di Torino, insomma, qual è la probabilità di riuscire a telefonare a questo signore qua, Cristiano Ronaldo, senza avere il suo numero di telefono? Ok, lui abita a Torino, sappiamo anche in che zona, digitando numero a caso di Torino, che ha prefisso 011, seguito da 7 cifre a caso, uno dei numeri così composti è il numero di Cristiano Ronaldo. Quindi digitando numero a caso potremmo riuscire a telefonare a Cristiano Ronaldo. La probabilità è 1 su 10 milioni, ma non è impossibile. E allora la mattina, per ovvi motivi non lo facciamo adesso, ok? Prendiamo a questo punto un cellulare, digitiamo un numero a caso, 011, seguito da 7 cifre, e proviamo a telefonare. E dal 2010 che proviamo a telefonare, non a Cristiano Ronaldo, perché prima era in Spagna, ma a Gianluigi Buffon, poi adesso quest'anno se n'è andato via, non abbiamo mai, se mai riusciti ovviamente a telefonare a Buffon, solo una volta eravamo a Trento, abbiamo telefonato, suonato libero, era tutto in diretta, insomma con insomma, il microfono e tutto, un ragazzo aveva il compito solo di dire pronto c'è Gigi, suona libero, insomma lui dice pronto c'è Gigi e la signora dall'altro capo del telefono dice sì, certo, glielo passo. Panico. Non era Gigi Buffone, ma un altro Gigi di Torino, insomma, non era lui. Prima posizione, probabilità di vincere la Superlotto, 1 su 622.614.630, ok? Eravamo più lì, insomma, c'eravamo quasi, ok? E a questo punto, ok? Questo punto, qualche anno fa, a un certo punto, della conferenza, un ragazzo alza la mano e dice, sì, vabbè, ok, io vi ho ascoltato, non è lui il ragazzo, ma insomma, però è tutto capito, ok, interessante, ma alla fine cosa mi state dicendo? Non giocare perché non vinci. Ma lui ci dice, però se io guardo la TV, vedo la gente che vince. Se io esco di qua e vado nella tabaccheria che c'è qua vicino, che non so dove sia, ci sarà scritto lì fuori, qua vinti 10.000 euro, qua vinti 5.000 euro, qua vinti 50.000 euro. E lui dice, quel tizio lì che ha vinto era uno come me che è entrato qua, ha comprato un biglietto e ha vinto. E allora, scusa, secondo voi è più potente il messaggio di un matematico che dice che la probabilità è bassissima, non vincerai mai, Lorenzo gioca ma tanto non vinci, oppure vado lì e vedo quello che ha vinto? E beh, sto messaggio qua è molto più forte. Come mi spieghi sta roba? Gli ultimi minuti sono dedicati a questo. Abbiamo scoperto, grazie a un matematico di inizio Novecento, Émile Borel, che noi pensiamo che le cose siano possibili o impossibili, quando in realtà esistono delle cose che non sono né possibili né impossibili. Si chiamano cose possibili dal punto di vista teorico, o se volete cose praticamente impossibili. Vi faccio alcuni esempi, tre esempi. Primo esempio, questo signore qua, si chiama Leif Olsson. Chi di voi conosce Leif Olsson? Nessuno. Sapete perché? Perché Leif Olsson è davvero, davvero scarso. È un giocatore di golf, quindi già non se lo fila nessuno, in più è davvero scarso. Il miglior piazzamento della sua vita è 38esimo, ok? Proprio quando gli è andata bene. 24 luglio 2009, guardate cosa riesce a fare. Se si possono abbassare un pochino le luci, vi ringrazio, così si vedono meglio i video. Eccolo qua. Leif Olsson colpisce la pallina e la pallina atterra sul green, vicino alla buca. Non entrerebbe in buca se non fosse che... Ora guardate la reazione di Leif Olsson, che è scarsissimo, e guardate l'amico vicino che lo prende in giro, a me fa impazzire lui, che lo prende in giro, e lui è felicissimo perché ha fatto buca in un solo colpo, e così facendo ha vinto una macchina, una BMW Z4 Roadster, valore $50,000, questa macchina, perché ha fatto buca in un solo colpo. Gli organizzatori hanno pensato, se uno è così bravo da far buca in un solo colpo, gli regala una macchina. Potevano immaginare che uno avrebbe fatto buca in un solo colpo colpendo una pallina di rimbalzo lasciata lì da uno che aveva lasciato la pallina lì dal tiro precedente? No, non succedeva mai. È praticamente impossibile. Ma è successo. Lui si chiama Randy Johnson. Randy Johnson invece in America è famosissimo perché è uno dei giocatori più bravi di baseball della storia. Se qualcuno di voi segue il baseball, di sicuro conosce Randy Johnson. È un lanciatore, cioè uno di quelli che prende la pallina e la lancia a 100 km all'ora circa al suo compagno di fronte a sé. Ha fatto centinaia, migliaia di lanci nella sua vita, ma è famoso per questo lancio. 24 marzo 2001, il video è molto veloce, il lancio è a 100 km all'ora, quindi lo mandiamo al replay due volte. Pronti? Eccolo qua. L'avete visto? La pallina becca in pieno un piccione che passava di lì in quell'istante. Questo è il piccione morto per terra. Questo è Randy Johnson, dispiaciutissimo. Lanciatore, pallina, piccione. Il piccione esplode in volo, Randy Johnson è spiaciutissimo per due motivi. Primo motivo, ha ucciso un piccione, mica voleva ucciderlo, no, ovviamente, mica l'ha fatto apposta. Secondo motivo, lui sa che è fortissimo, no, il Cristiano Ronaldo del baseball, ma sa che da quel momento in poi non sarà ricordato per la sua carriera, ma sarà ricordato per essere l'unico lanciatore a aver mai ucciso un piccione durante una partita, ok? Tra l'altro adesso Randy Johnson è in pensione, non fa più insomma il giocatore, ma fa il fotografo a bordo campo, no? Fa le foto, magari nella speranza di beccare un altro piccione, e ha fondato una sua società di fotografia, tutto vero, si chiama Randy Johnson Photography. Questo è il logo della sua società. E poi c'è la storia più bella del mondo, secondo noi, che è la sua storia. La storia di Roy Sullivan è l'ultima storia che vi racconto, poi faccio una cosa velocissima e poi ho finito davvero, giuro. Randy Johnson, la devo leggere perché insomma non mi ricordo tutti i dettagli. Prima che ve lo chiediate, insomma, è tutto assolutamente vero. Eccola qua. Roy Sullivan, park ranger statunitense, nato nel 1912, morto nel 1983. Aprile 1942, Sullivan ha 30 anni, lavora nel parco, scoppia un temporale. Lui, per non beccarsi la pioggia, si nasconde dentro una torre di avvistamento antincendio. Si nasconde lì dentro, ok. La torre però viene colpita da fulmini e prende fuoco. Allora lui naturalmente esce dalla torre. Esce e viene beccato in pieno da un fulmine, che lo becca in pieno, ma lui non muore. 27 anni più tardi, luglio 1969, Sullivan sta guidando il camion in montagna, quando scoppia un temporale. Un fulmine colpisce l'albero vicino al camion. Di rimbalzo entra dal finestrino lasciato aperto, che faceva caldo, e lo becca in pieno mentre sta guidando. Sullivan non muore neanche questa volta, ma sviene. Sviene, ma sta guidando un camion in montagna. Quindi lui è svenuto, il camion va avanti, va avanti, va avanti, va avanti, va avanti, va avanti, va avanti, arriva sull'orlo del precipizio e non cade. E lui non muore. L'anno dopo, luglio 1970, Sullivan è a casa sua, tranquillo. Decide di fare due passi nel giardino di casa. Un fulmine lo becca in pieno. Terzo fulmine, ma non muove. 16 aprile 1972, la faccio breve. Sullivan viene colpito dal quarto fulmine. Anche questa volta non muove. Va in ospedale, però. Non è piacevole, no? Essere colpito. Non l'ho mai sperimentato, ma non credo sia piacevole. Va in ospedale e io non c'ero, ma immagino la scena. Lui arriva in ospedale, si siede. Vicino a lui c'era un giornalista, questo lo sappiamo. Il giornalista si rivolge verso di lui e dice: mi scusi, non voglio... Ma cosa le è successo? La vedo un po' bruciacchiata. Ah no, niente, un fulmine. Come niente? Non è che capiti... No, niente, già al quarto, stia tranquillo, sono abituato. Allora, il giornalista ovviamente, insomma, si prende bene, scrive una storia su di lui, un articolo su di lui, non lo intervista. Roy Sullivan diventa un uomo famosissimo, entra nel Guinness dei primati come l'unico uomo mai colpito 4 volte da un fulmine e ancora vivo. Dichiara il giornalista, tra le altre cose, posso anche trovarmi in mezzo alla folla, ma lui colpirà me. 7 agosto 1973. Sullivan è famosissimo ormai, appunto, è di pattuglia nel parco, vede una bellissima giornata di sole, vede solo una nuvoletta in lontananza. Nel dubbio scappa. Scappa verso il camion parcheggiato di vicino, sale sul camion, tira sul finestrino, si stende sui sedili anteriori e aspetta che la nuvoletta se ne vada. Ve ne immaginate che vita, ok? La nuvoletta se n'è andata via, a quel punto, solo a quel punto, si rimette in piedi, mette in moto, ok? Prende il suo camion, guida, arriva a destinazione, scende dal camion, il fulmine lo becca in pieno. Quinto fulmine, ma non muove neanche stavolta, io ho versato tutta l'acqua, ma facciamo finta di niente. Ok, dichiara al giornalista, che ormai insomma con cui è amico, sembrava che la nube mi seguisse. 5 giugno 1976, stessa scena di 3 anni prima, bellissima giornata di sole, nuvoletta, l'unica differenza è che lui è insieme a un suo collega. Il collega, con la coda dell'occhio si accorge della nuvoletta, si rende conto di essere insieme a Roy Sullivan, prende e scappa. Sullivan, ma pensate che vita, tu stai parlando uno, ciao, come va? Questo prende e scappa, senza motivo. Sullivan da solo prende e scappa dalla parte opposta e fanno bene a scappare, perché dalla nuvoletta si stacca un unico fulmine che colpisce Roy Sullivan, ovviamente. Sesto fulmine, ma non muove. 25 giugno 1977, Roy Sullivan finalmente è in pensione. E quindi per riposarsi un po' decide di dedicarsi al suo hobby preferito, la pesca. Ora, se ti colpisce 6 volte di fila un fulmine, decidi di andare a pescare con la tua barchetta, la tua canna da pesca in mezzo a un laghetto? Sì, un fulmine lo colpisce in pieno, ma non muove neanche questa volta. Perché Roy Sullivan muove. Finalmente. 12 settembre 1983. Come? Indigestione, così ci vi colleghiamo. No, strangolato nel lenzuolo del letto, no. Adesso muoio anch'io, no, come? Vecchiaia, no. Muove, suicida. Si suicida a 71 anni per una storia d'amore andata male. Come disse qualcuno in seguito, l'ottavo colpo di fulmine. Ora, è tutto assolutamente vero, giuro. Qual è la probabilità di essere colpiti 7 volte da un fulmine e non morire per quello? Ok? Bassissima. Qual è la probabilità di fare buca in un solo colpo colpendo la pallina di rimbalzo? Bassissima. Ma è successo. Tutte queste cose sono successe. Erano praticamente impossibili, ma sono successe. Ok? Io posso dire da Lorenzo, gioca ma tanto non vinci. Posso andare da questo qui e dire, se vuoi, gioca pure, questo col cappello, tu lui, gioca pure, tanto non vinci. Posso dirlo a ciascuno di voi, andate a giocare, tanto non vincete. Ma se andate a giocare tutti insieme, non solo tutti voi, non solo tutti noi, ma vanno a giocare insieme anche tutti loro. Tutti andiamo a giocare al Superenalotto. Anzi, tutti loro vanno a giocare al Superenalotto. Tutti loro vanno a giocare al Superenalotto. Allora la probabilità che qualcuno di loro vinca è alta. Perché? Perché sono in tanti. Siamo in tanti. Se 60 milioni di italiani, una parte di questi, gioca al Superenalotto 3 volte alla settimana per mesi e anni, prima o poi qualcuno vince. Ma la probabilità che sia Lorenzo a vincere è bassissima. La probabilità che sia lui a vincere è bassissima. Quindi noi vedremo qualcuno che vince, di sicuro, ma quel qualcuno non sono io. Questa è la storia, ok? Vediamo qualcun altro che vincerà, ma non sarò mai io. E questa è la fregatura, perché vedo qualcuno vincere e dice, ah, se poteva farcela lui, ce la posso fare io. Okay? Ma questo non mi capitava mai. Tutto questo può essere riassunto nell'ultimo video, che dura qualche secondo, è un test sull'attenzione, piazzato quest'ora apposta, perché di solito uno quest'ora dorme, ok? Ma è un test sull'attenzione per vedere se eravate stati attenti, ok? Dura pochi secondi, vi faccio una domanda e poi abbiamo finito. Qua se volete potete anche proprio spegnere tutto, tanto se uno si addormenta adesso va benissimo, tanto abbiamo finito. Allora, è un video a cui vi chiedo di fare enorme attenzione, è molto molto famoso, se qualcuno l'ha già visto, quindi insomma non dica il risultato, il video è questo, si chiama test di attenzione. Funziona così. L'avete già visto? No, questa squadra qua è una squadra composta da giocatori vestiti di bianco. Questi invece sono vestiti di nero. Quando schiaccio play, questi giocatori vestiti di bianco si passano questa palla qua. Stessa cosa fanno questi, si passano questa palla qua. Non c'è nessuna ferratura, questi vestiti di bianco se la passano solo tra di loro, questi vestiti di nero se la passano solo tra di loro. Voi cosa dovete fare? Contare i passaggi che si fanno tra di loro i giocatori vestiti di bianco. Fine. Però i passaggi sono molto veloci. E in più cos'è un passaggio? Se io passo la palla a Lorenzo, questo è un passaggio. Ma se lancio la palla in alto e poi la riprendo io, non è un passaggio, giusto? Voi dovete contare solo i passaggi. Io conto i primi tre a voce alta, poi in silenzio voi continuate il conteggio, alla fine mi dite quanti ne avete contati, vi dico se è giusto o sbagliato, una fase e poi ho finito. Pronti? Massima attenzione. Ok, siamo a 0, 0, 0, 1, 2, 3, quanti? Ottimo. La risposta esatta è 13. Vari, che tristezza però, che delusione, finiva così la conferenza. Contate i passaggi, guarda, sono 13, risposta giusta 13, ciao, andiamo a casa. Ok, no, non è questo, perché io ho voluto vedere se eravate attenti. Eravate attentissimi, molto bene. Le luci erano spente, se io ero qua in un angolino, se avessi fatto qualcosa di strano non mi avreste visto, perché le luci erano spente e voi stavate guardando qua. Ma se qua fosse successo qualcosa di strano, ve ne sareste accorti, giusto? Lo schermo è magnifico, la sala è splendida, le luci erano spente, stavate guardando qua. Se fosse comparso, che ne so, un uomo vestito da orso, con delle orecchie gigantesche, che entra di qua, cammina, quando arriva qua in mezzo vi guarda e comincia a ballare facendo così, poi si gira e camminando all'indietro esce di qua ballando come faceva Michael Jackson, voi l'avreste visto, giusto? C'era davvero. Quanti di voi hanno visto un uomo vestito da orso che ballava come faceva Michael Jackson? Ok. Ci sono delle mani alzate? Quante? Ok. Che ne so, tu? Lo conoscevi? Conoscevi il video, quindi non vale. Tu hai visto l'uomo vestito da orso? C'era davvero? Hai contato i passaggi? No. Questa è la roba incredibile. Lei conosceva il video e si è goduta l'uomo vestito da orso, ok? Voi non conoscevate il video, avete contato i passaggi. Nessuno riesce a fare entrambe le cose. Noi esseri umani non siamo bravi a fare due cose insieme, ok? Il multitasking, bellissima sta storia, ma una balla colossale. Okay? Non riusciamo a fare attenzione a due cose insieme. Noi esseri umani maschili, neanche una di solito, insomma. Però insomma, in generale l'essere umano due non ce la fa, ok? Quindi o contiamo i passaggi o vediamo l'uomo vestito da orso. Il principio è questo, occhio che è facile perdersi qualcosa se non lo stiamo cercando. Col gioco d'azzardo, e questa è la cosa banale, è impossibile vincere alla distanza, alla lunga, impossibile. Fanno di tutto per non farcelo notare, ovvio, ci distraggono con le piccole vincite, le quasi vincite, ci fanno vedere qualcun altro che ha vinto. E uno si perde l'unica cosa banale che è destinato a perdere. Qua è passato un uomo vestito da orso e noi non l'abbiamo visto, anche se stavamo guardando qua, ok? Voi forse non ci credevate, adesso vi faccio vedere di nuovo il video. Non contate i passaggi, guardate e vedrete un uomo vestito da orso che passa di qua, vi saluta e se ne va. E con questo vi saluto anch'io e me ne vado a casa. Vi faccio vedere l'ultimo video, poi giuro non parlo più. Il video era questo, giusto? Era lui. Lo mandiamo indietro. Sempre lui, i passaggi erano questi, giusto? 0, Uno, due, tre, signore e signori, ecco a voi l'orso. Passa, balla e se ne va ballando all'indietro come faceva Michael Jackson. E noi non l'abbiamo visto. Grazie mille per l'attenzione e massima attenzione. Grazie. E grazie per la pazienza e per l'orario. Grazie mille.